Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla anni... bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, posso, quello che ha. Non posso farlo, non posso Ma farlo, se non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai Mario. A fare in culo tu, pirla. Ma non chiamare, imbecille, se hai il telefono così. Non chiamare, non chiamare, non chiamare, se hai il telefono così, non chiamare, imbecille. Ma perché è sempre stata smissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Questo coronavirus, questo coronavirus ci ha fatto a noi cattolici una grazia straordinaria. Dopo più di 30 anni ci ha liberati dai ciarlatani della Madonna di Međugorje. Perché grazie a Dio con il coronavirus la Madonna di Međugorje è scappata, scappata! Non si era mai vista nella storia della Chiesa una Madonna scappare davanti a un'epidemia! Međugorje è scappata. Ho capito, ma aspettate un attimo, fatemi sentire. Ma che è scappata la Madonna di Međugorje? Perché che te ne devi tornare a casa? Allora, sentiamo Morelli. Oh, basta. Dopo più di tre anni. Ariel, porca. Tappati la bocca. State zitti, state zitti. Io vorrei dire questo, lei si comporta come uno del popolo, ma la sua unica preoccupazione è quella di non riuscire ad andare a Santo Domingo quest'estate. Dovrebbe mettersi nei nostri panni. L'hanno detto alla zanzara, perché dicono cose inesatte. Se tu segui la zanzara, vai fuori strada. Io non seguo la zanzara, noi lo sappiamo tutti che lei comba due, lei queste cose qui, fa queste cose. Questo gentile signore che segue la zanzara, e siccome nel corso della zanzara non faccio neanche i nomi, ci sono due personaggi che io non stimo, due padovani, non meritano neanche di essere da me menzionati. Meglio perderli che averli. Brutti, cattivi, rancorosi e invidiosi nei miei confronti. Appartengono all'estrema sinistra. È per questo che sono invidiosi. Basta che non metta un'altra pizza. E mi faccio una prugnetta, mi faccio cruciare. Dal bunker di Via Monterosa, eccoci qui, vivi e vegeti, ancora, ancora vivi e vegeti. Applausi al sottoscritto, applausi al sottoscritto, eccoci qui. Autoapplausi in collegamento dal bunker del Mossad, sito nel quartiere Prati a Roma, David Parezzo, eccolo qua. Mali mortacci de Pippo, ma perché? Amo fatto l'Eurogruppo. No, Rinaldi, dai, Rinaldi, non faccia così. Io ho a lira degli mortacci mia. Buonasera cari amici, buonasera. Perché devi prendere per il culo Rinaldi, l'europarlamentare della Lega? Ma lascia stare, ma che bombolo. Bombolo, fammi sentire Bombolo un attimo. Ce l'hai Bombolo lì, Bombolo, senti Bombolo. Basta che non metta un'altra pizza. Li mortacci. A Merkel sta culona de merda. Mi dovevano mandarmi a trattarmi, si ne avrei mandati a fare in culo. Mamma mamma mia, ieri ti ho visto, ieri guarda, guardavo la 7 ovviamente, Formigli, però sì. A un certo punto ho dovuto vedere, sì, ho detto vediamo cosa c'è dalle altre parti. E sono rimasto incollato a una cosa incredibile che ho visto. C'eri anche tu che sembravi la persona più ragionevole, peraltro, in quel contesto. C'era Rinaldi, il deputato della Lega, che aveva in mano una lira. Sì, ma penso che poi lo farei. Continuava. Una lira, agitava una lira in continuazione. Però ragazzi, sentiamo tutto, sentiremo tutto. Avete massacrato l'onorevole Morani, che era l'unica a provare. Voglio iniziare con un personaggio. Voglio iniziare con un personaggio. È una cosa incredibile. Voglio iniziare con un personaggio che è l'europarlamentare, peraltro collega di Rinaldi, la signora Donato, tu devi dire le cose, devi emancipati da questi qua. Ragazzi, non ne posso più. Allora, la signora, ma a me non me ne frega niente. Allora, questa signora ma Donato, dillo che cosa fa. Aspetta, lo sto raccontando. Ma abbiamo tutti gli avvocati per te, per difenderti. Non ti preoccupare. Ma sei incredibile. Questa Donato cosa ha fatto? Si oppone naturalmente all'accordo che è stato raggiunto, il MES per le spese sanitarie, eccetera, eccetera. Non entriamo nel dettaglio. Donato cosa fa? Invece di protestare tramite i social network, tramite l'internet, tramite il cazzo che gli pare, si oppone, va in strada a Mondello in Sicilia con il clacson, a suonare il clacson. Ragazzi, io non ci posso credere. E tu non dici niente. Ma sto dicendo che è una pagliacciata, una buffonata. Non vuoi dare la notizia. Ma lo sto dicendo adesso. Emancipati da questi. Senti, ti prego. Questo governo che non fa altro che raccontarci menzogne, promettere cose che non mantiene, che continuare a servire gli interessi di lobby multinazionali estere invece che gli interessi degli italiani. Ma vi rendete conto? No, ragazzi. Cioè, ma vi rendete conto o no? Vi rendete conto o no? Ma col io clacson. Dovrei dirlo. Tu li hai sostenuti fino a ieri, ma vi rendete conto o no? Lo dico io, vi rendete conto o no? Senti, però uno questa è collega. No. Certo che c'è una bella selezione per andare in Europa, perché voglio dire, la classe dirigente della Lega in Europa è Bombolo e la signora che va in giro col clacson, nonostante il decreto ti imponga di startene a casa, a starnazzare col clacson. Questa è la classe dirigente che la Lega ha mandato in Europa. Arriva la polizia. Aspetta. Ancora non hanno dato niente agli italiani e continuano a prenderci in giro, a prometterci soldi che ancora non sono arrivati, ad assecondare le richieste di altri paesi esteri invece che fare il nostro interesse. È una vergogna. Abbiamo tutto il diritto a essere rappresentanti da un governo che fa gli interessi dell'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Ecco la polizia, giustamente. Interrompo la diretta perché devo rispondere alla polizia come era assolutamente prevedibile. Ci vediamo fra poco. Scusa, ma anche no. Io adesso mi voglio mettere nei panni non del poliziotto che poi lei successivamente la scena di Amici Miei, questa è la scena di Amici Miei quando c'è quello che suona il clacson. Ti posso dire una cosa? Allora, a un certo punto i poliziotti avranno risolto, anzi lei ha comunicato successivamente, poi sentiremo che praticamente dice che i poliziotti hanno dato il via libera a questa cosa perché è una attività essenziale, fare attività politica, cioè rompere i coglioni per strada. Io mi metto nei panni, nei panni della gente che era in casa. Intorno là ci sarà stato qualcuno in casa, a Mondello, Palermo, qualcuno sicuramente per strada, non fare un cazzo, sicuro. Ma ci sarà stata gente a casa che sente a un certo punto il clacson. Ma uno comincia a dare delle tortorate. Cioè, ma che roba è? Ma uno il clacson, già uno gli gira i coglioni che deve stare a casa. In più c'è una con clacson che dice: ah, contro l'Europa. Ma uno tira i sassi dal condominio. Cioè, tira i sassi dalla finestra. Dai, su. Mamma mia, ragazzi. Mamma dai. Oh, senti, il camion. Appunto. Sì, ma è meglio questo, almeno questo qua lo fa per strada. No, ma è la scena di Amici Miei. Quello dice: allora, scusi, Meluzzi, poliziotto, lei ha clacsonato. Meluzzi e Fusaro insieme, ti giuro, David. Meluzzi e Fusaro insieme, nello stesso contesto. No, ma senti questa cosa qua. Ma che cos'era? Il bagaglino? Idrossiclorochina. Cioè un farmaco banale, tanto efficace che io me ne sono procurato una piccola quantità per me e per la mia famiglia ed è la prima che prenderei e i primi sintomi di effetti del coronavirus. Allora, ci informa che La clorochina fa bene, però io mi sono anche rotto il cazzo di queste cose qua, ragazzi. Clorochina, poi si è spuntata fuori l'ozonoterapia, prima ancora l'Avigan, poi ho letto da qualche parte il gabesato, poi l'antiartrite, non so come cazzo si chiama, le cose che tocini, zoom, no, non se ne può più, cioè dicessero una cosa, non... troppa gente che comunica, abbiamo scoperto una cosa, ma che cazzo ne sapete? Ma quello è Meluzzi, ma chi se ne frega? Ma non è solo Meluzzi, ti ricordo che uno che si è autoproclamato Pope, Alessandro II della chiesa autocefala di non so che cosa, ti ricordo che è quella roba lì. Senti ancora Compusare, quindi... che dice che non vogliono provare questo farmaco, cioè la clorochina, perché le case farmaceutiche, eccetera, eccetera. È una roba che si fa con 13 euro. Allora, io mi chiedo se la reazione così furibonda a questa normale dichiarazione non sia legata al fatto che tutte le linee strategiche della Big Pharma non spingano anche l'azienda che la produce, la Sanofi, che è entrata anche nel pool per fare il vaccino, a dire che tutto sommato è meglio che sta roba non circoli troppo. Ecco, io con questo non voglio apparire un paranoico complottista, mi sono limitato a dire una cosa che qualunque medico di buon senso avrebbe detto. Poi parlano di microchip, i famosi microchip. Mamma mia, bellissimo. Mamma mia. Ci sono credenti che credono di credere e non credono, come Bergoglio, e ci sono credenti che invece non sanno di essere credenti e lo credono. E quindi noi mettiamo nelle mani di Dio e nelle mani, come dire, della potenza del Paraclete, dello Spirito Santo, questa sfida anticristica che ci assedia, che distrugge l'uomo trasformandolo in una macchina, in una merce, in un oggetto, in un robot, delirio. E che, come leggo ogni giorno, si prepara ad affacciare il microchip che ci dovrà essere infilato sotto la pelle, sulla fronte o nel sedere. Quel microchip di cui parla l'Apocalisse, che dice che senza il segno della bestia 666 nessuno potrà né vendere né comprare, e quindi nessuno potrà vivere. Scusate, ma nessuno vuole mettere il microchip sotto nel culo di nessuno. No, cioè nessuno vuole mettere, a meno che uno pensi che siamo in un... c'è qualcuno che lo pensa effettivamente, che siamo tutti controllati da dei microchip, ma nessuno ha intenzione in questo momento di mettere dei microchip nel culo di Meluzzi. A meno, a me risulta così. Cioè... Ma gli possono mettere quello che vogliono, per quanto mi riguarda, negli orifizi di Meluzzi. Ma ricordiamo, state tranquilli, ascoltatori, il signore che avete sentito prima è uno che si è autoproclamato. No, perché questo è tutto. Si è autoproclamato Pope. Senti questo. Noi ci ribelliamo al 666 della bestia, ma non e ci ribelliamo ad una visione della vita come pura merce, come puro corpo, come puro culo, come puro nulla, che ci affaccia e si affaccia da ogni lato, e mettiamo nella potenza della Santissima Trinità la protezione delle nostre vite, della mia vecchia vita, della tua giovane vita e di quella ancora più giovane di tua figlia e di mia figlia, e quindi di una dimensione nella quale confidiamo nella Madonna, nel cuore immacolato di Maria, alla quale la Chiesa Ortodossa Italiana ha consacrato l'Italia, invocando l'arcivescovo di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, a consacrare, secondo il desiderata della Madonna di Fatima, la Russia al cuore immacolato di Maria, perché in tutte le profezie mariane questo è un passaggio importante. Pope ufficiale di Roma ha detto che non esiste questo qua. Ma al di là di questo, ma come si può? Io non ne posso più, però, del Sacro Cuore di Maria. Ogni giorno c'è qualcuno che esce fuori. Io posso anche capire, perché effettivamente i virologi si contraddicono, dicono di tutti i colori, e dicevano questo, dicevano l'altro. L'OMS non ne parliamo. I farmaci che vengono fuori ancora non si sa. Non si sa quando ne usciremo. Io vedo molto negativo. In generale vedo molto negativo. Uno dice, vabbè, mi resta il Sacro Cuore di Maria. Poi io devo sopportare, voi non dite mai questa cosa qua, voi non la dite mai, voi ex radicali, non la dite mai. Il Papa chiama Rai 1 e Rai 1 prona lì, eccoci qui, ma chiamasse Radio Vaticana, chiamasse TV 2000, hanno le loro, il Papa non può chiamare come cazzo gli pare Rai 1, non può chiamare Rai 1, non chiamerà la Zanzara, ma non chiama, sicuro, però non puoi chiamare Rai 1, chiamasse, divulgasse il suo messaggio tramite i mezzi che hanno al Vaticano, naturalmente Rai 2, naturalmente dovrebbe chiamare Rai 2, naturalmente. Il professor Tangrillo continua a dirmi tachipirigna. La Zanzara. Milano, esco e finalmente per sbaglio trovo le mascherine. Ho trovato ovviamente quelle del modello Coniglietto Bonni di Vincenzo De Luca. Siamo al top. Ora più che mai legalizzatela, legalizzatela. Allora mi dicono, ti interrompo un attimo, Don Marco, mi dicono che sta arrivando una telefonata in diretta. Proviamo, pronto? Sì, Rai 1. Buonasera Lorena, come sta? Papa Francesco, ben trovato. Ho riconosciuto la voce. Sì, sì, ho riconosciuto la voce, la ringraziamo di cuore per questo intervento, ma soprattutto per quello che sta facendo per ognuno di noi, per quanto sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze. Sono vicino a voi. Ma cosa vuol dire? Ma perché la ringrazio per quello che sta facendo? Ma cosa vuol dire la ringrazio? Bellissimo, un capo spirituale, una figura di riferimento. Ma io per non devo ringraziare milioni, perché, miliardi ma perché di persone qualcuno nel deve mondo. Ringraziare il Papa, non ho capito. Qualcuno però scusami, per nota forza la differenza. Devi ringraziare tu ringrazi il Papa. Quei quattro decorticati matti che chiamano qui. Uno dice: maledetti, maledetti, grazie per la telefonata, altra chiamata. E lì non possono ringraziare il Papa, scusa. Ma tu c'è un motivo per cui uno ringrazia il Papa? Qua? C'è ma un c'è motivo perché tu ringrazi Meluzzi? No, io non ringrazio Meluzzi. Ogni volta, grazie Meluzzi per quello che ha detto, ma come, le peggio cose grazie Meluzzi, almeno il Papa dice cose molto condivisibili, ma ireniche. Non perché io devo ringraziare, dici ringrazio il Papa per quello che sta facendo, ma che sta certo. Facendo cosa? Che sta facendo? Potrebbe Meluzzi fare molto di più facendo. Il Vaticano, molto di più potrebbe fare il Vaticano con i suoi possedimenti, con i suoi danari, potrebbe fare ecco. Molto molto di più potrebbe fare. Comunque, ti accontento, caro David, lo show di Rinaldi ieri sera, molto incazzato, con una lira mamma in mano, a dritto e rovescio, naturalmente ero presente. Però introduciamolo così, forse, no? Perché tu eri lì in studio, lui era collegato, però per capire la differenza di parole, sentiamo Bombolo prima, il vero Bombolo, così, sentilo, così potete fare il confronto. Basta che non metta un'altra pizza. Sto Bombolo? Però vorrei ripetere, sono tutte parole, fino adesso nelle tasche degli italiani, degli imprenditori non è arrivata, la vede questa, la vede bene, è una lira, manco quella, gli altri paesi invece li hanno dati. Vorrei ricordare a Rinaldi che il problema sono i vostri alleati olandesi, capisce? No, il problema è che noi ci siamo tirati giù le brache, alleati della Lega. Quindi ecco, la Lega deve soltanto tacere, perché se in Europa siamo in queste condizioni è per il rapporto che avete costruito negli ultimi due anni. Punto a capo. Le ricordo anche che la lira è fuori corso, quindi è inutile che fa vedere quella monetina perché non serve a niente. Aspettiamo, ricordi che con questa lira l'Italia si è tirata fuori dalla seconda guerra mondiale. Gli italiani Rinaldi, si sono comprati casa. Voi state giocando dall'inizio di questa tragedia. Che cosa dice Puzzani? Metta via di per terra. Ma non lo vede che questa tragedia state come giocando al giochino per buttare su. Ma lo sa che cos'è il MES? Parlate uno per volta. Cambiate gioco. Rinaldi, aspetti. Lo sa. Poi tutti. Togliete i microfoni. Parlate uno per volta, se no da casa cambiano canale. Ma come, avete sempre detto no al MES, adesso tiratele fuori per cortesia, tiratele fuori. Non fate cadere l'Italia nelle mani della Troica per cortesia. Io forza. Che Troica, ma basta. Del debbio. Sì. ancora, ma state ancora prendendo in giro gli italiani? No MES fino a poche ore fa e adesso pregati col MES. Mortacci. Allora porro fino al 3 maggio. Posso dire? Ma ti ha dato pure ragione poi. Ma non ti sei imbarazzato? Allora scusami, posso dirti una cosa? Questa roba qui per cui viene indicata ogni volta una data, adesso probabilmente Conte che doveva fare una conferenza stampa l'ha ritardata di ore, una cosa vergognosa. Non è possibile. Ma non è possibile ogni volta. No, è una cosa pazzesca. Non esiste nessun paese in cui un governo deve fare una conferenza stampa, il capo massimo di un governo, e la ritarda di ore. Ma che cazzo è? Dai, questo è ormai è una follia, dai. E oggi questi decidono che non si apre fino al 3 maggio. Fino al 3 maggio. E qui invece di avere una rivoluzione, perché io lo so, perché molti di voi sono d'accordo col governo. Io vorrei veramente farvi rendere conto cosa succede in questo paese se siamo chiusi fino al 3 di maggio. Io lo sapevo, ero sicuro. Quando ci prendi gusto è difficile. C'è il decretino, no? Quanto tempo state a casa? Ma ci stiamo 10 giorni, 15, poi 20, poi 30, poi 40, poi 50, poi 9 mesi, poi un anno. Voi dite esagero? La via semplice è arresti domiciliari con il presidio ferreo che garantisce la Lamorgese, oggi in un'intervista al Corriere della Sera, perché è fatto per il vostro bene. Quindi per il vostro bene tagliatevi la libertà. Ragazzi, guardate che è una cosa di una gravità mostruosa, ma noi stiamo zitti e muti. Questi virologi non capiscono nulla sulle cure, che dovrebbe essere il loro mestiere, ma sanno tutto su come dobbiamo perdere le libertà. Tutto! L'unica cosa che loro dicono che funziona è il lockdown. Non sanno qual è la medicina, non sanno come si espande, non sanno se sta sugli oggetti, non sanno se resiste nell'aria, non sanno se servono le mascherine, non sanno come curarci nelle terapie intensive fino alla fine, se non quelli che stanno zitti e muti, che sono i medici che stanno in ospedale. Posso dire una cosa, David? Allora, io come sai sono d'accordo sulla chiusura, ma non sono d'accordo sulla chiusura ferrea, anche molto più dura di quella che abbiamo adesso. Vedo immagini a Napoli incredibili di gente che esce fuori, non solo a Napoli, ovviamente anche a Milano ci sono delle scene. C'è caldo, è Pasqua. Che vuol dire più dura di questa? Più dura, molto più dura, con multe molto più dure, con l'esercito per strada, eccetera, eccetera. Ma io lo faccio non perché sono un amante dei carri armati, non sono un amante della dittatura. Io sono un amante della libertà e dunque meno tempo uno passa con possibilità di contagiare, perché questo cazzo di virus circoli, più riacquistiamo tutte le cazzo di libertà che ci portavano in giro a fare il cazzo che ci pareva prima. Questo è il punto fondamentale. Non è che sono un amante delle restrizioni, sì, dunque io contesto, cioè, Porro per questo. Più di così non si può fare. No, molto di più si potrebbe fare, molto di più. Troppa gente in movimento, troppa gente. Però io lo dico non perché sono un amante di queste cose, perché ne voglio uscire il più presto possibile. E trovo vergognoso che questo governo non presenti un piano chiaro, ancora non c'è un cazzo, oltre al fatto che non c'è un euro nelle tasche, concretamente no, nelle tasche. Non c'è un euro, ancora concretamente non è una rinaldata. Non c'è. Dai, Riccardo da Milano, non c'è un piano. Che subito dopo Pasqua le persone andranno in banca, poi e aprono tutto, aprono le 600 librerie. Euro. Ma, aprono le librerie, ma sono impazzite. Questo librerie. È giusto, ma questo è un bel segnale per la cultura, questo non è male. Ma chi se ne frega delle librerie? Ma compratevi i libri sull'internet, le librerie, dai. Sì, su, bravo, ma così poi è. Muoiono completamente le librerie, che sono un presidio culturale in tante città italiane. Presidio culturale. Riccardo, dimmi. Parenzo, è un periodo di tempo che ti stai facendo mettere sotto da Gottardo e da Cruciani. No, non ma credo che cosa proprio. Ti ma sotto capitato? Dove? Ma non lo so, proprio. Non lo so. Loro parlano e tu a malapena rispondi. Ma che roba è? Vabbè, dimmi che c'è, dimmi. Ma che roba è questo, voglio dire? No, non ma devi stare tranquillo. Che roba? Qual è il problema? Mongolo è un termine, che mi puoi dare, ma in cui non mi riconosco. E che comunque è un termine vergognoso. Mongolia. Sì, mongolo della Mongolia è un cazzo. Beh, Riccardo, che vuoi? Spiegami. Cosa no, vuoi? Voglio dire a Parenzo che deve essere un po', che deve dire un po' più di più le cose che pensa, che è quello che fa la ma lo dice sempre ogni giorno. Ma così, ma lei che trasmissione ascolta, però non lo so perché. Abbi il coraggio, aspetta, Riccardo, abbi il coraggio di dire che oggi qualcuno del PD ha proposto una tassa, una sì. Prelievo sopra Covid tax. No, una Covid un tax. Si devono vergognare più di 80.000 euro. Una vergogna, dillo che è una vergogna, dillo. Non hai il coraggio di dire. La soglia, no, io penso ma, che ma quale soglia? Nemmeno un euro devono togliere perché dalle tasche degli italiani. Chi guadagna 80.000 euro no, non è un ricco, no, ma nemmeno quelli che guadagnano sopra 500.000 devono essere toccati a causa di questa crisi. Nessuno, chi guadagna nessuno, più di 300.000 euro, già pagano le tasse. Già pagano le tasse, questo è giusto. Però se servono soldi, Gianni Darò, non servono soldi, servono soldi, ma non con le tasse. Ma non sono gli italiani a dover pagare, Gianni da Roma. Dai, smettila. Dimmi, pronto? Dimmi. Cruciani? Dimmi, Gianni. È pazzesco. No, non dico pronto? Di stampare moneta, però Gianni, dimmi. Niente, voglio essere solidale con te perché appoggio in pieno la tua tesi, quella del che poc'anzi parlavi, questa del governo che non sta dando una lira. No, ma questi del PD, questi del PD, scusami Gianni, questi del PD vogliono mettere alcuni del PD, non passerà la cosa. Vogliono tassare ancora gli italiani. Li vogliono tassare. Ragazzi, fermi, vi dovete cominciare a ribellare a questa roba qui. Due del PD, tre del PD. Io sarò il primo a ribellarmi. Ah, tu magari non guadagni 80.000 euro, dunque non sarai toccato. No, io sono già in pensione, caro Bruciani. Che cazzo io sono già in pensione. Coglioni, ma io penso prima di tutto ti pago la pensione e rompi pure i coglioni. Basta, no? Adesso cosa c'entri tu? Che ti ribelli te? Ho sentito un rumore che mi dà fastidio. Io sto parlando con Cruciani. Allora, intendo parlare con Cruciani. Prendi pure la pensione, fermo che dopo ti richiamo, Gianni. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong, il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. La Zanzara. Io non capisco, con tutto un arredamento di un appartamento ci abbiamo fatto solo 3 milioni. Piantala su. Ma il discorso è un altro, è che qui non si può più lavorare. Non si può più lavorare, hai capito? È il decimo che svaligiamo e quel sonso del boia ci dà sempre il 10%. Quello è boia da nome, boia da fa. Ah, oh, e sta con le mani a posto. A cavallo, ma che tocca il culo a mia sorella. E se spogliano davanti all'angelo la posso attastare un pochetto io che sono amico. E che c'entra, quello è un lavoro. A casa mia 3 milioni di ISO 4 su 750.000 lire. Allora cambia casa, perché a casa mia siamo 5. Mi sorella non ci ha metti. Oh, ma noi ci abbiamo messo a rischio, sai. E perché mi sorella non ci ha messo il culo? Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Poi un'altra cosa, testa di cazzo di Cruciani, ti volevo ricordare che non andrebbe multata la gente che va a correre o che va fuori a farsi una passeggiata, isolato ovviamente, eh? Andrebbe multata la gente che va in radio come te a sparare delle stronzate, te andresti multato. E poi se non hai la mascherina, mettiti la museruolo la prossima volta. Solo con Crux IV e David II ci salveremo da questa pandemia. Avanti tutta! Allora ragazzi, non c'è dubbio che il personaggio del giorno, almeno secondo noi, sia questa Francesca Donato, se non sbaglio, che è parlamentare europeo della Lega. Voglio... Io appena sento Europa e Lega dico... Allora, Francesca Donato, perché il personaggio del giorno? Adesso, al di là delle questioni sulla riapertura, Conte che non si sa quando parla, eccetera, eccetera, per chi ci ascolterà in podcast sicuramente ha già parlato, almeno si spera. A parte questo, che è una vergogna comunque, perché bisognava dire la verità agli italiani sin dall'inizio, lo diceva oggi un virologo questa mattina, non mi ricordo in quale trasmissione, sin dall'inizio bisognava avere un linguaggio chiaro, resteremo dentro 2 mesi, non ogni volta dopo 15 giorni fare un decreto, ma che roba è? Ma è una roba ridicola, ma è una roba ridicola, bisogna trattare gli italiani come delle persone intelligenti, non come dei coglioni. Dire per 2 mesi sì, staremo certo, dentro, 2 mesi di lockdown, perché così alla fine sarà più o meno, dunque è inutile illuderci, non vi illudete, non uscite in Cina, sono stati 3 mesi, ma non lo so, non mi interessa, non mi interessa. Bisognava dire la verità. Stiamo dentro 2 mesi, forse di più. Non rompete il cazzo e soprattutto ogni volta non ci potete angosciare con le comunicazioni continue, ogni 15 giorni. Ma non giorni, c'è nulla di angosciante. Comunque, è giusto torniamo, che un governo si confronti. Torniamo alla Donato. Torniamo alla Donato, europarlamentare della Lega, che oggi si è messa a fare il clacson. Ma io risentirei quegli audio lì perché sono fenomenali. Il clacson a Palermo, perché lei è di Palermo. Clacson per protestare contro l'accordo europeo, il MES. Silenzio, eccetera. Silenzio, lo sto mandando in onda continuamente. Poi magari la chiamiamo pure. Facciamo, riavvolgiamo un attimo il nastro. Senti. Spero che qualcuno di voi mi stia seguendo e comunque questo video verrà postato in seguito. È il primo giorno di questo flash mob che io voglio organizzare ogni giorno alle 12 per protestare contro il governo che sta facendo la più grave delle operazioni a cui abbiamo mai assistito negli ultimi anni. Questa è la premessa, questa è la premessa. Vai al sodo, vai al clacson, vai al clacson. Terzo governo, ecco, che non fa altro che raccontarci menzogne, che promettere cose anche che non mantiene, disturbo che della continuare a servire gli interessi di lobby multinazionali estere invece che gli interessi degli italiani. La Lega questa, E dai col clacson, ma uno potrà stare in casa in pace invece di sentire il clacson. Dai a Merkel, dunque, lei è d'accordo con questo? Scusi, lei è d'accordo con il fatto che uno suoni il clacson? Quando si tratta di rompere i coglioni, sono sempre in prima linea. Ancora non hanno dato niente agli italiani e continuano a prenderci in giro, ma a prometterci soldi che ancora non sono arrivati, ad assecondare le richieste di altri paesi esteri invece che fare il nostro interesse. È una vergogna. Abbiamo tutti il diritto a essere rappresentati da un governo che fa gli interessi dell'Italia. Buongiorno. Ma la gente aspetta la polizia. Interrompo la diretta perché devo rispondere alla polizia, come era assolutamente prevedibile. Ci vediamo fra poco. Assolutamente. Scusi, un secondo. Prevedibile. E poi dà le sue spiegazioni, senti perché è eccezionale. Senti. Deputato della Lega. Eurodeputato, senti. Ma come li scelgono? Con che cast? Cosa fanno un cast prima per mandarli in Europa? Cosa fanno? Non è che gli altri siano dei geni, diciamo, Beh, gli altri partiti. Amico dai, mio. Dai. Beh, nessuno arriva a questi livelli, dai. Nessuno. Vabbè, ma questo è show, no? È show. È la realtà, il clacson. È la realtà. Dai, contro le banche, dai, sono il clacson, dai che funziona. Eccomi, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono rientrata a casa. Sì, ecco. E vi racconto com'è andata a finire. Mi ha fermato, mi ha fermato perché ero già ferma. Comunque mi ha È intervenuta la polizia. Controllato la polizia. No, pensavo l'ambulanza, perché ovviamente hanno sentito suonare il clacson. Dunque ho spiegato il significato di quello che ho fatto, controlli incrociati. Hanno chiaramente stabilito che in quanto eurodeputato nell'esercizio di una funzione politica che è nell'interesse del paese e comunque in assenza di comportamenti minimamente lesivi di una rompi coglioni alla gente però o comunque di altri interessi importanti non ero passibile di multa e quindi non ho ricevuto nessuna multa. È gravissimo. Sono andata via senza avere nessuna verbale. No, però scusate, adesso io dico, io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Esatto, quindi domani posso scendere in piazza e suonare il clacson. Sì, allora, io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine, devo dire la verità. Adesso io non so che cosa è successo, però oggettivamente, lo dico veramente in maniera oggettiva, perché non sono passibile di essere non mi si può far passare un po' di coraggio però dicendo mi hanno chiamato decine di avvocati per dire che sono tutti a disposizione per difenderti. Io in questo momento me la sto prendendo oltre che con lei naturalmente anche con le forze dell'ordine, perché questi signori delle forze dell'ordine con quelli là, non in generale con le forze dell'ordine, è vero che si sono trovati di fronte a un caso un po' bizzarro, uno dice il clacson per strada, dice c'è un decreto che non puoi uscire di casa, puoi uscire solo con giustificato motivo per fare la spesa. Venga multata e questa rompe pure i coglioni suonando in mezzo alla strada. Ma perché non l'hanno multata? Io domani posso andare in giro con la macchina, dice sto facendo attività politica, ma che roba è? Cioè, ma è una follia, dai, ma questa è discriminazione bella e buona, dai. ho compilato l'autodichiarazione in cui ho spiegato le ragioni del mio gesto, chi sono e le finalità. Quindi intanto vi voglio rassicurare, non mi hanno arrestato, no, ma nessuno era preoccupato. So che sicuramente per chi non è un eurodeputato o comunque un politico c'è il rischio di uno subire una multa, una contravvenzione per questo tipo di iniziativa. Esattamente. Quindi intanto spero che se qualcuno di voi l'ha fatto non abbia subito delle conseguenze. No, però scusa, ma è una cosa di una gravità inaudita. Cioè, questa qua scende in piazza coi clacson per fare una manifestazione contro il MES, non si può uscire da casa, non si può uscire da casa, viene fermata dalla polizia e dei carabinieri che stanno dando 10.000 multe al giorno, ci sono sanzioni come piovesse, giustamente, e viene e ne esce così illibata. E dico illibata perché non so usare un altro termine, cioè senza una multa, senza un buffetto, nulla, nulla di nulla. Incredibile. Ragazzi, dai, su. Gianni da Roma, dai, poi uno, dai. Gianni, poi uno si incazza, la gente comune si dovrebbe incazzare. Non vorrei che la polizia si fosse intimidita perché diceva, ah, siccome un deputato della Lega magari ma poi ci scusi, fa casino. Ma le forze dell'ordine, tra l'altro, mi segnalano che dei deputati sono partiti dalla Sicilia l'altro giorno, sono stati segnalati, la Casellati si è anche incazzata, dei senatori, due senatori, perché sono stati segnalati dalle forze dell'ordine, hanno preso i documenti e tutto, ma è giusto che siano segnalati, poi uno verifica se veramente scendono alla riunione del Senato o no. Non c'è nessuna posizione di vantaggio di un deputato, se viaggi per motivi di lavoro va bene, se fai i cazzi tuoi col clacson per strada meriti una multa come i tanti italiani che giustamente sono stati multati. Ma ok, meno male cosa. Ma meno male, dai, dai, su. Liberatorio, Gianni, su, bene, Gianni. Bene. Pronto, Cruciani? Io spero che il questore di Palermo chiami il responsabile di questa minchiata, ma non c'è dubbio, dai Gianni, allora che volevi? Niente, volevo riprendere il discorso. Ah, tu eri il pensionato, sì. Pensionato. Sì, vabbè, diciamo molto fresco. Parenzo diceva, ma allora che cazzo vuoi con questa... Ma io voglio discutere, voglio colloquiare soltanto con te. Perché Parenzo che t'ha fatto, sì. Scusa. No, giusto, proprio no, anch'io non voglio parlare con lui, anch'io non mi interessa. Per me è una persona proprio, non voglio, io per me tu, Radio 24 tu dovresti soltanto... parlare con me, perché io ti pago la pensione, tu dovresti parlare con me, io ho diritto di parlare con me, io ti sto pagando la pensione. Se la sarà pagata con i suoi contributi. No, io gli sto pagando la pensione a questo qua, quindi io ho diritto di parlare con una persona a cui pago la pensione, capito? Ho il diritto di parlare con te, ti pago la pensione. Lo psichiatra e Fusaro li hai offesi. Che tu non sei degno manco di nominarli. Sono due. Okay. Ah, perché tu sei della combriccola di quei due lì? Di quei due lì? Ma senti, per cortesia, voglio. Ho detto tutto. Allora, onore, voglio parlare con Cruciani. A te piace Cruciani, giusto? Sono cazzi miei se mi piace Saranno Cruciani. Cazzi suoi o no? Potrebbe anche piacermi. Certo, non mi piace te. Questo è chiaro. E per me è una garanzia. E per me è una garanzia, onore. Comunque vorrei dire, questa onore. È anche una grande pagliacciata questa. Quale, di questa della Lega che va lì in piazza. Io premetto che non, il mio partito non c'è più da anni. E qual è il partito? Non c'è più, il MIS il Movimento Sociale Italiano, ne sono orgoglioso di questi del grande Giorgio Almirante, sento l'odore, del grande Giorgio Almirante. Smell, in inglese la parola smell. Io ne sento lo smell. Per cortesia, vorrei parlare con te. Io ne sento lo smell. Se siamo in democrazia, voglio parlare con te. Non voglio parlare con quell'essere, che non voglio neanche menzionare. Scusami, Gianni, se li sta sui coglioni Almirante, Movimento Sociale sarà padrone. Ma tutto o no? No, io non dico nulla. Assolutamente. Intanto, onora quell'uomo, per carità. Ma lasciamo onore. Per cortesia, voglio parlare con Cruciani. Ho fatto una settimana di telefonate e non sono ormai riuscito a prendere la pensione. Ha speso Gianni. Tutta la pensione. Ti sei sputtanato la pensione per parlare con Cruciani. Voi siete dei piddisti. Io ne sento l'odore immediatamente di questi piddisti. Voi volete tappare la bocca al popolo libero. Diglielo, Gianni. Libero italiano. Diglielo, Gianni. Voi volete tappare la bocca al popolo italiano. Io questa mattina voi del PD, voi siete un PDismo. Ma io non sono il PD. Voi siete non me ne frega niente, siete una sinistra di merda. Aspetta Gianni, aspetta però, che torno. Scusi, signor pensionato italiano, mi scusi, io immagino il pensionato come una persona tranquilla, pacifica. Aspetta. La zanzara. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco mucchina. Già la usavo, ma adesso di più. Che tutto questo allarmismo che stanno dando, e la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. E la gente già lo usavo, ma adesso di più. Mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Io sono mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Parenzo. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Cosa? Quando? No, è possibilissimo. Cosa? Quando? No, è possibilissimo. Eccoci. Allora, siamo con Gianni da Roma. Caro Gianni, immagino che tu sia anche incazzato per quest'idea del PD di proporre una tassa sugli italiani, una tassa sugli italiani che guadagnano più di 80.000 euro. Sei incazzato, Giuseppe, come Giuseppe. Una biscia. Immagino che tu sia incazzato come una biscia. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Ma io lo dico anche questo. No, ma diciamolo. È margine. No, questo nel contesto di tutto quello che stanno facendo. Ma quanto prende di pensione questo qua? Marginale. Quanto prende di pensione questo qua? Quanto prende di pensione questo qua? Quanto prende? Quanto prendi di pensione? Oh, Bruciani, dimmi. Allora io ti prego, io ho 66 anni, te ne hai 53. Sì. Ah, ecco, 66. Se mi rispetti soltanto perché qualche anno più di te. Ma sono qui, Gianni. Ti prego una sola cosa, dimmi. Pochi secondi che mi sono concessi. Dimmi Gianni. Voglio parlare con te. Sì. Voglio esprimere il mio pensiero con te. Sì, ma tranquillo. Voglio una zanzara che mi dà fastidio all'orecchio. Voglio capito? Capire una cosa, Gianni. Ma secondo te, se ci fosse stato lui, Sua Eccellenza, diciamo, no? Sua Eccellenza, sì. Le cose sarebbero. Sua Eccellenza, no. Sua Eccellenza. No, Sua Eccellenza. No, attenzione. No, ma voglio dire, secondo te, detto tra di noi, se ci fosse stata Sua Eccellenza Benito Mussolini, le cose sarebbero andate. Dai. Sì, dimmi. No, dico, sarebbero andate meglio le cose. No, nel senso che innanzitutto è un nazionalismo, un nazionalsocialismo. Ma quello, sai, non è molto, non è bella come cosa, come no, attenzione, no, siamo arrivati al nazionalsocialismo. Caro mio, tu sei di Roma, tu sei nato a Roma. Il nazionalsocialismo non porta bene come no, te. No, aspetta, non il nazismo, io parlo del fascismo. Cioè, il fascismo, tu sei nazionale. Dunque tu sei ancora un po' fascista, mi sembra di capire. Ma io il fascismo non l'ho vissuto. Io sono nato però sei un con po', il un movimento po'... sociale italiano. Capito, Parenzo, e non l'ho mai abbandonato. Che cosa gli vuoi dire a Gianni? Ma niente, ha preso la pensione perché rompe i coglioni, non ho capito. C'ha la pensione, guarda, nessuno Cruciani, qual è il suo problema? La tassa Cruciani, sopra gli 80.000 euro non ci sarà, non lo riguarda. Quanto prende di pensione questo? Prendi di pensione, tu ecco che c'è Conte, zitto, povera, Conte. Meschina, tu sei una persona povera. Aspetta, ma sentiamo Conte. Gianni, resta lì. Naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. È una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, sì, con esperti con gli esperti del nostro comitato tecnico scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Dunque? Il comitato tecnico scientifico ci ha dato una conferma. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal governo stanno dando dei frutti, stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti. L'ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Un sacco di morti ci sono, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Dunque? Se noi cedessimo adesso, lo sappiamo, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo, e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dunque? Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua. Lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della Liberazione, per il primo maggio, il ponte del primo maggio, la festa del lavoro. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, ecco notizia. Qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole, anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. Vabbè, via. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo bloccato. E continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto. Dopo ma nello Pasqua, stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo. Molto teniamo bene. Anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure ancora, per tutte le attività notizia. Produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro paese a pieno regime. Vedrai, te lo dico non io. Non siamo però io, ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti, dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Gianni, mi sembra che tu sei un fan di Conte, mi sembra di capire, no Gianni? Guarda, giusto? Se mi vuoi fare, diciamo, rattristare la serata, mi dici questo. Io non sono, ripeto, io non è che contesto tutto quello che il governo... Ecco, dal 14 aprile riaprono le librerie, cartolibrerie, l'ho appena detto, va bene, e altri negozi, dal 14 Gianni, aprile. Allora, Gianni, dimmi allora. No. Allora, il discorso è questo, io non è che, ripeto, io personalmente non ho una preferenza, una simpatia, c'ho qualche simpatia particolare, però non è che me ne faccio, non vado a votare, quindi non ho problemi. Quello che io dico, il sovralismo popolare deve venire fuori. Vabbè, Alessandro, perché... ciao Gianni, Alessandro da Lucca, ciao. Alessandro, vai, Ciao. Alessandro, dimmi, allora? Tutti in piazza il 25 aprile a cantare Bella Ciao. Dai balconi, in piazza. Non dire vorrebbero tutti uscire, viva il Duce. No, fermo. Cosa dici? Walter da Novara, questo è ubriaco. Ma la gente, ieri a via Buenos Aires, Corso Buenos Aires a Milano, Corso Buenos Aires. C'era uno nudo con l'uccello di fuori. Cioè, Mi hanno detto, la gente ha sbroccato. La gente sta cominciando a sbroccare. Chi votava quello lì? Gliel'hanno chiesto. Per chi votava quello? Walter da Novara, dimmi. Scusi, no, lei per chi vota? Dice che gli avevano rubato tutto. Walter da Novara, dai. Urlava che era contro il MES, magari. Era so, nudo, poi... viaggiando. Ma Walter, può essere dimmi, tutto Walter, nudo? Walter. Il MES! Walter, dimmi. Marco da Sassari, vai. Marco. Sì, sono qua, sì, sono io. Dimmi, dimmi, Marco, dimmi. Devo parlare io. Allora, niente, secondo me ho sentito, non siete più voi, io non vi ascoltavo da tempo, e tu e Parenzo non siete più, non avete più la minima contraddizione tra voi. Sì, no, no, ma litighiamo sempre di continuo, che cazzo dici, Marco? Non dire sì, è così. Ma non è che uno litiga per forza, anche per finta. Ma su che cosa? Ma di che stai parlando? Di cosa? E di la tua, avanti, senza rompere i coglioni. Allora, io volevo dire che noi siamo tutti a casa perché ci obbligano a stare a casa, perché stanno rifacendo i ponti e nel frattempo stanno facendo anche saltare. Non è che siamo a casa perché stanno rifacendo i ponti. Che cazzo dici? Siamo a casa perché stanno rifacendo i ponti? No, se mi fai finire allora. Sì, ma devi parlare meglio, non col viva voce, non con l'auricolare, capito o no? Se questo è il problema, il problema è che devi togliere o il viva voce o l'auricolare. È chiaro, Marco? È chiaro o no? Sì, ho il viva voce. Ma lo devi togliere, quel viva voce maledetto. Lo devo togliere? Ma sì, certo che lo devi togliere, perché non te l'hanno detto forse, ma è così, oppure te l'hanno detto e te lo sei dimenticato, te ne sei sbattuto. Sì, Marco, ti sento, dimmi. Io sentivo bassissimo. Allora, l'unica cosa che vuol dire, sarà brevissimo, guarda. Allora, sai cosa? Non sento niente, Francesco da Milano, dai, Francesco, era meglio prima, Francesco, dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao a tutti. Dai, dimmi. Volevo dire solamente che sono un po' incazzato con tutta questa gente che vuole riaprire le chiese. E fa tutta questa propaganda, dimmela a me. Soprattutto in televisione. Dimmela io a me. So che tu la pensi come me, Cruciano. Ma non è che la penso come te, ma mi sembra una follia, cioè senza le senso. Dai. No, più che altro che ti spiego. Io il tempo che sono qui a casa, praticamente ho una persona che gli hanno scoperto purtroppo una brutta malattia, e gli ospedali stanno rimandando i pre-ricoveri e tutto. E mi devo sentire invece le persone che si lamentano che devono andare a purificare lo so. E in chiesa. Diglielo. Questa cosa mi fa molto male, capisci? Ma diglielo anche a quei parlamentari che vanno a fare le claxonate o i flash mob, vanno a suonare il clacson per claxonate. Strada senza essere claxonate autorizzati, secondo me. Ma questo lo capisco. Il problema è che non lo so, guarda, mi viene tanto di quel nervoso e cattiveria. Ma no, ma lascia perdere la cattiveria. Uno deve essere incazzato con l'ipotesi che tassino ancora gli italiani su questa storia del coronavirus. Su questo uno deve essere veramente incazzato. Perché sì, c'è qualche. C'è qualche, Francesco. Perché c'è. No, non c'è nessun. Ma cosa? Ma noi già le paghiamo le tasse, continuano a rompere se i coglioni. Dai. Ho capito, ma in un momento di crisi ma chi guadagna. Ma non di dire più, stronzate, ma già chi guadagna di più paga un sacco di tasse. Oggi proporre oggi la tassazione è folle perché è tutto chiuso. Giuliano da Modena, dai. Giuliano da Modena. Ma in prospettiva. Ma quale prospettiva? Di che, Giuliano? Dai, dimmi. Uè, ciao. Dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai, dimmi. Niente, solo una cosa. Ma come si dica che cazzo potrebbe succedere se la BCE cominciasse a stampare moneta? Perché qua... Non lo so, cioè, Giuliano, sono discorsi. Discorsi un po' così. Siamo tutti nello stesso calderone, eh? Cioè, non, vabbè, allora... non se ne salva nessuno, eh? Sì, non lo può fare però, non lo può fare, punto. Ma perché? Perché? Non lo può fare perché istituzionalmente è stata creata per non stampare moneta, punto e basta. È inutile adesso stare a discutere di questa cosa qua. Non si può fare, cioè punto e basta, non si può fare. Che poi, che poi siamo in mezzo alla merda, su quello non c'è dubbio. Sì, ma questa è molta merda. No, ma ragazzi, la questione è questa, che molte attività riapriranno fra non so fra quanti mesi. A questi vanno dati soldi subito. Scusa, a queste attività qua vanno dati soldi subito. Moneta stanno tanto meglio di noi. Ester da Milano. Ester, la magia del stampare moneta hanno preso soldi i problemi subito di tutti. In America, dai, Ester da Milano. Ester, dimmi. Buonasera, senta. Tutto il mondo è in difficoltà, tutti i medici e tutti i governi. Lei non fa che criticare i danesi subito. Tutti vogliamo le cose subito, ma ci vuole il suo tempo. Se ci fosse il governo qualcun altro, lei fa tutto giusto, fra lei, Porro e signor Salvini, in più anche con un po'. Dica di educazione. Ma che dice perché questa? Noi possiamo baciare la terra dove vedi a certi governanti che fanno il suo dovere dappertutto. Che... Sono... E i soldi anch'io li ho bisogno. Che è una pensione bassa. Ma se te non mi lasci finire, è una pensione bassa, però te la precedenza a quelli che possono meno di me. Ma vai, ma dai la precedenza a chi ti pare, chi se ne frega? Io ho un figlio, lei se ne frega troppo. Ma chi se ne frega di come fa a parlare? Io ho un figlio che fa l'anestesista. Vabbè, è benissimo. Allora, e che fa? E lei dovrebbe là dentro a vedere cosa c'è. Ma chi dice così? Ma chi ha mai criticato gli anestesisti? E quelli e quelli e quella, perché lei anche contro questo governo. Ma questa è matta, ma questa è matta, io faccio politica. Che sforzo tutti, lei fa politica. Ma io faccio politica, ma tu sei rincoglionita completamente. Ma questa è rincoglionita da pronto? Lucida. Richiamatemi un po' questa, richiamatemi questa un attimo, richiamatemi questa. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait for me. Io vedo molto negativo. Grande Mago Ruggero. A Riccardo dalla provincia di Cremona, vai Riccardo. Sì, ciao a tutti, buonasera. Dimmi, dimmi. Niente, io volevo dire che vabbè, comunque mi ha anticipato l'altro ragazzo, che comunque mi sembra assurdo che la gente continua a lamentarsi, è una cosa assurda, cioè tutti che si lamentano, poi ci sono persone che hanno il diritto di lamentarsi, ma persone che si lamentano perché sono annoiate. Aspetta, Esther. Sì, sono qua. Ma che vuoi ogni volta che chiami? Io non voglio niente. Ma cosa vuoi? Perché lei se comincia a averla con una persona. Ma io non ce l'ho con nessuno, sempre. Ce l'ho con... Ma chi? Ma lei porta il rispetto qua anche ai nostri governanti, ci sono stanno buttando a destra e a manca. Quando ma i governanti cose, chi? Adesso non lo sa nemmeno lei quello che dice, perché vanno tutti. Ma c'è gente senza un euro, attività chiuse, Esther, se ti sta bene. È peggio di una guerra. E allora, sono appunto, morti tutti i giorni. E che vuoi da me? E che è colpa mia? Fosse comuni. E ma che allora, fosse comuni ancora no, in America. No, questo qui, quello lì là. Vada da lei. E così vedi che da un giorno l'altro. Ma io faccio il mio mestiere. Ma questa è rincoglionita completamente. Questa è la vecchia rincoglionita totale. Bravissima, lucida. Adesso chiamiamo Feltri, chiamiamo il Feltrone. Eravamo con Riccardo dalla provincia di Cremona, vai, adesso chiamiamo Feltri. Vai Riccardo, dimmi. Sì, no, niente, che comunque mi sembra assurdo, perché poi ci sono delle situazioni, io ho dei colleghi che lavorano in Croce Rossa, dormono 4 ore, 5 ore. E Rischiano. E oltretutto c'è da dire che poi quando le persone che magari sono annoiate a casa gli succede che un parente o qualcuno sta male, perché gli sta male, loro esigono che venga curato, però è giusto che ognuno vuole essere curato, è giusto, ma se noi per primi non rispettiamo questa cosa, se noi vogliamo andare in chiesa, perché se uno è credente dentro, punto, va bene, sarà un disagio non andare in chiesa, ma chi se ne frega, la gente che crede, non cioè la gente che è spirituale, la gente che vuole andare, diciamo, che vuole pregare, cioè, ha tutte le possibilità di farlo, se ne sbatte i coglioni di andare dentro una chiesa a pregare insieme a un prete, se ne sbattono i coglioni, una roba vecchia, superata, finita, morta. Uno può pregare in mille modi, non c'è bisogno per forza di andare in chiesa. Ma di che parliamo? Dai, su. Ciao Riccardo, ciao. Vittorio, dov'è il direttorissimo? Dov'è Feltri? Dov'è? Incazzato nero. Mirko, provincia di Latina, vai Mirko. Ciao Bruciani. Dimmi. Io ho chiamato un secondo con Parenzo. Dimmi. Sì, c'è. Eccomi c'è. Caro, allora, buonasera, Parenzo. Grazie per aver chiamato in questa trasmissione. Buonasera. Ma ci mancherebbe. Parenzo, una cosa. Tu fai il leone con la maggior parte della gente di destra, e io, essendo di destra, ti dico che la maggior parte è ignorante e sono d'accordo con te. Non hanno mai aperto molti libri. Il problema è che voi di sinistra, che dite di avere ma non di sinistra, che c'è di sinistra? Non avete mai capito un cazzo. Ma non c'è okay. niente sinistra o destra qua? No, no, non c'è perché sinistra? Allora, perché voi di sinistra? Cosa c'entra? Tu sei ebreo e fai il comunista. Ma che c'entra? Ma perché ma che comunista? Ma che mai stato ma comunista? No. Adesso non esageriamo, quello, ma non c'entra ma quando niente. Posso, ma quando sono stato comunista? Il partito comunista si è sciolto nel PDS. Il 25 aprile, se tu vai in piazza, a te ti insultano. Io certo vado in piazza, adesso non posso andare in piazza. Ciao, Mirko, ho fatto tutti i 25 aprile. Ciao. Io perché non è vero. Eccolo qui, Vittorio! Oh, evviva! Oh, un trionfo assoluto, caro Vittorio. Come sono contento di sentirti. Innanzitutto, vedo che sei comunque sulla breccia, che non hai nessun tipo di problema e ci tocchiamo anche insomma, a pelle, no? Possiamo dire, ci tocchiamo in maniera assoluta. Si può dire però che ti sei veramente rotto il cazzo di stare a casa, di non poter più andare nei ristoranti, eccetera, eccetera. Si può dire chiaramente o no, Vittorio? No, è così, ma io penso di non essere l'unico a pensarla così, nel senso che sì, dopo più di un mese abbiamo il diritto di aspirare a fare una vita normale. Certo è che ci sono dei problemi, quindi non li ignoro, bisogna rispettare certe regole, però le regole vanno fatte secondo me con più giudizio, cioè bisogna concedere qualcosa naturalmente con tutte le protezioni del caso. Però tu usciresti, fosse per te usciresti, insomma, o esci o comunque riesci, a parte tu vai a lavorare, per cui da un certo punto di vista sei privilegiato come me. Dovrebbe stare a casa, Ma perché deve stare a casa? Scusa, non ho capito. Io peraltro gli voglio anche quindi litigo con lui perché sono su posizioni anche diverse, cioè, però siccome gli voglio bene, lui dovrebbe starsene a casa, perché a una certa età è pericoloso, tanto che senso ha, va lì al giornale, rubano pure i pezzi. Vittorio, del come cesso. Rispondi a questa cosa? Stare lì a casa, tranquillo, sta lì a casa, fammi sentire, a casa. Fammi sentire. Per la tua salute, Statene a casa. Lui dice ti vuole bene, dovresti stare a casa. Come rispondi? Gli rispondo di farsi i cazzi suoi. Vabbè, ho capito, però no, se anche ragione, uno con gentilezza gli dice statene a casa perché hai una certa età, stai a casa, c'è tua moglie, hai il tuo gatto. Guarda lì, non so come si chiama. Guarda che io a una certa età ci sono arrivato, tu non è te. Però voglio dire, ma gli sto augurando di, ma scusami, gli dico a una ma certa che te ne frega età, te, che bisogno c'è che lui vada a libero al giornale. Senti Vittorio, quanto ti fa schifo? Amico caro, esatto, fatti cazzi. Bravo Vittorio. Senti, quanto ti fa, stai zitto, quanto ti fa schifo l'Unione Europea da 1 a 10? Quanto ti fa schifo? A te come istituzione, come tutto, quanto ti fa orrore? Diciamo che l'Europa non mi fa orrore, mi fa orrore l'Unione Europea. Naturalmente. Ti fa orrore l'istituzione, diciamo, l'istituzione. Oh, sì, l'istituzione. Ma cosa dice? Quale istituzione? L'istituzione è il Parlamento, ho parlato della UE, la UE, tante cose, l'Unione Europea, come tu sai, direttore, e tante cose, è la BCE, è la Commissione. A lei non piace niente, ma sarà padrone, tutto o no? In vacca. Via, butta. Senti tutto Vittorio, in vacca. Ma a parte l'Unione Europea, la mascherina tu la porti normalmente? Perché ho sentito che non ti piace portare la mascherina, o sbaglio? No, perché mi manca il fiato quando me la metto, però... E appunto, diciamo, deve stare quando... a casa... Fammi sentire. Fammi una domanda. Dimmi. Quando esco e entro in un posto perché devo comprare qualcosa, eccetera, io mi metto la mascherina diligentemente come fanno tutti. Dopodiché, sono nel mio ufficio, dove ho una scrivania che è larga 2,5 metri, non mi metto la mascherina. Quello no. Perché non ricevo nessuno, quei pochi che ricevo siamo rimasti in quattro in redazione. Se ne stanno a debito a distanza e quindi non corriamo. Sì, ma comunque è vero, ha ragione. Ma va a fare, a lavorare, va. Adesso non è che devo rispondere io. Uno va a lavorare, uno sarà padrone alla sua età di andare a lavorare. Se è autorizzato ad andare a lavorare. È pericoloso uscire di casa alla sua età, è pericoloso. È meglio stare a casa, questo dico. Senti, però scusa, Parenzo, mi chiamo a te per. Solo motivo che devo sentire le stupidaggini. No, hai ragione. No, c'è una cosa. Lui dice, però in questo caso veramente lo dice in maniera sincera, perché me l'ha detto anche l'altro giorno. Non capisco perché, però io gli ho detto: ma saranno cazzi suoi, cioè va a lavorare, sono cazzi suoi, punto e basta. Finiamola lì, ma stai a casa tu perché sei giovane, ma sei debole. Beh, questo, questo è il cazzo. Ti pecchi il coronavirus, vai a fare in culo nel giro di una settimana. Stai tranquillo. Ma io sto a... questo infatti me ne sto a casa. È altamente probabile. Ma infatti me ne sto a casa. Però l'altra cosa, dubbio che mi viene, cioè, scusa, vedi il paradosso, chi è più coraggioso? Aspetta un attimo, chi è più coraggioso? Guarda, sei alto, un metro e un cazzo, sì. E quindi questo, diciamo, facilita il compito del virus, perché in 10 minuti ti ha occupato. Non sapevo che fossi anche biologo e medico. Dopodiché mi risulta molto strano che il direttore di un autorevole giornale sia in diretta alla Zanzara mentre parla il presidente del Consiglio. Ma sai che cazzo, voglio sapere come fai a fare i titoli domani se non hai neppure sentito Conte, che ma è in diretta ora. Tanto dice sempre le stesse cose. Quando avrà imparato come fare i titoli come riesco a fare io, potrai parlare. Ma questo è bello, però. Questo è bello. Che titolo fai domani? Cosa fai? Mi fa cagare. Che te frega a te? Che te ne frega? Compralo. Ma mi interessa il giornale. Scusami. Ma allora se non ti interessa il giornale, perché Vittorio, ma non è una vergogna l'idea? Scusami, passiamo ad altro. Non è una vergogna il fatto che alcuni del PD hanno in testa di mettere una tassa per gli italiani che guadagnano più di 80.000 euro? Io trovo veramente un'idea, o è tutta una tattica, non passerà mai probabilmente, però è una roba vergognosa, cioè vergognosa, cioè far pagare adesso questa situazione con ulteriori tasse, un prelievo agli italiani, è una roba che fa accapponare la pelle, da incazzarsi come delle bestie, o no? Sì, però capisci che questa proposta viene da quelli che erano comunisti e tali sono rimasti, e questa è una proposta comunista. Sì, è vero, non bisogna stupirsi di tu dici, non bisogna... Zingaretti e Gualtieri erano comunisti, appartenevano al partito comunista italiano, chiaro, con grande orgoglio, tra l'altro. Ma scusa, ma non riesco a capire, ma Feltri, che guadagna 500.000 euro l'anno, credo, anche qualcosa di più, forse non lo so quanto, sì, ecco, 1.000.000 di euro l'anno, e potrà pagare qualcosa in più in un momento come questo di dramma, visto che ha lo stipendio fisso, guadagna 1.000.000 di euro l'anno, no, ho capito, vorrei segnalare a Parenzo che i miei guadagni, diciamo, vengono sottoposti mensilmente e direttamente alla fonte a un prelievo fiscale considerevole, considerevole. Vabbè, il 45%. La tariffa massima, quindi perché devo pagare ancora? Ho già pagato le tasse. Ma ha ragione, ragazzi, ma c'è, io perché l'ho detto uno anche dice, prima. Essendo un momento drammatico, lui, anche se guadagna anziché 30.000 euro al mese, ne guadagna 28, non è un problema, no? Perché tanto cosa fa tutto il giorno? Ma tanto i tassi tuoi non te li fai, e fai il conti in tasca a me, fai lì. No, ho capito, ma 1.000 euro in meno al mese a uno che guadagna. Io non ti farei guadagnare un cazzo. Ma io non ho capito. Uno che guadagna quella cifra lì non è che gli fa la differenza per una tantum guadagnare 1.000 euro ma meno. Ma è il principio. Vittorio, spiegaglielo, non lo capisce. I ristoranti sono pure chiusi. Ma ho capito, i ristoranti sono pure chiusi, quindi non può neanche andare al ristorante. Quello è un po' tiro del culo non andare al ristorante. Diciamo la verità, Vittorio, tra le tante cose che di restrizione della libertà, per te andare al ristorante è effettivamente, questo bisogna dirlo, ma anche per me, per carità, andare al ristorante è veramente, non andare è veramente una tortura, diciamolo. Sì, non è che ami moltissimo le frequentazioni degli esercizi pubblici, però è chiaro che un paio di volte alla settimana io andavo a qualche ristorante perché magari dovevo incontrare qualcuno, non è che me li posso portare tutti in casa che poi non riesco più a buttarli fuori, invece al ristorante fai che cosa te ne vai. Comunque la cosa incredibile in questi giorni è che continuano a sbarcare i migranti a Lampedusa in Sicilia, cioè è pazzesco. Ma quello è chiaro. No, ma uno oggi è pure arrivato infettato, pare, cioè è arrivato pare. Sì, uno sì, anche a me risulta questo. Va bene, insomma, diciamo che la questione degli immigrati l'abbiamo trattata 1.000 volte. E sappiamo come la pensiamo. Sì. Certo è che l'immigrazione non può essere fermata con la forza e la violenza. L'immigrazione c'è sempre stata da secoli, sì, anzi da millenni, quindi va governata. Invece noi non l'abbiamo mai governata, questo è il vero problema. Ma è chiaro che con un dosaggio avveduto si potrebbe anche vedere. Ci sono 600.000 clandestini da regolarizzare. Qualcuno dice, Vittorio, qualcuno dice che addirittura questo coronavirus colpisce meno le persone di colore. Qualcuno l'ha detto, poi la cosa è stata un po' smentita. Secondo te è vero? Sì, ma dei cacciati ne sono state tante. Hanno detto anche che chi ha il gruppo sanguigno zero come il mio non si ammala di coronavirus. Che non ci credi tu? No, non ci credo, sto attento lo stesso. Io però spero di essere immune. Ma il tuo gatto sta bene? Il tuo gatto? I miei gatti, io ne ho 4, stanno tutti benissimo. Perché tu preferiresti, naturalmente, per carità, i morti sono sempre morti, però piuttosto che far morire il gatto, che il coronavirus lo prenda. Preferisco che muoia un comunista. Uno si chiama Uno si chiama, figurati, uno si chiama Ciccio e gli altri gatti come si chiamano? Te ne frega come te? Come si chiama? Ma che te ne frega? Comunque, la cosa fondamentale che io conosco la sua, il fatto che è un amante dei medicinali. Dunque, io penso veramente che se ci fosse un medicinale pronto, lo testerebbe su di sé, cioè Vittorio, lo testerebbe sicuramente su di sé, questo non c'è dubbio. Immediatamente. Ragazzi, questo è un così, atto molto generoso. Un'ultima cosa, Vittorio, ma generoso. Il sesso per te nel momento del coronavirus con queste restrizioni, no, com'è? Più complicato, ormai è un ricordo lontano. Questo è anche, diciamo che per me il sesso è fonte di una inesauribile nostalgia. Sì, e in questi tempi di coronavirus, stare a casa, tu per esempio sui siti porno c'è una grande esplosione, come sai, no? Anche di vendite, figurati, di vibratori. Il direttore di un giornale, figurati. Sono esauriti tutti i vibratori, ma risulta, abbiamo fatto anche un servizio su questa cosa. Ma queste inchieste avete fatto, certo. A me non me ne importa. Figura. Niente. No, ma tu non pratichi. Cioè... Fanno inchieste sui vibratori. Ma perché non si possono fare inchieste sui vibratori? Per carità, ma i vibratori tu non li usi, ma c'è gente che li abbiamo usa. Abbiamo fatto anche un'inchiesta. Secondo me, abbiamo fatto su se stesso. Sta parlando Conte e lui dice: abbiamo fatto un'inchiesta sui vibratori. Ma tu ti rendi conto? Vabbè, sì, comunque. Perché sappiamo i tuoi gusti e quindi ci siamo. Grazie. Ciao, Vittorio. Ciao. Ciao, arrivederci, ciao, arrivederci. Ciao. La zanzara. Pronto? Guarda, ma vattene a piangule, guarda, a te grindri dici, tu vuoi clandestine. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè, piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Per l'occasione la Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico Orientale prega affinché tutte le chiese cristiane consacrino i paesi e le nazioni in cui operano alla Vergine Maria. La nostra Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico Orientale, con spirito di umiltà e di fratellanza, il nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con il Padre in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli, si rivolge a Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Ma perché? Affinché, come richiesto dalla Madonna nelle sue apparizioni di Fatima, allora consacri la Russia al suo cuore immacolato. Dal monastero di Santa Maria Teotokos, Madre di Dio, in Grotta Ferrata di Roma, Grotta Ferrata, il giorno 5 aprile dell'anno di grazia 2020. Firmato Sua Beatitudine il Patriarca Alessandro I, con Sua Eccellenza Cosma e Parche, Vicario Generale della Chiesa, e, chi è e Sua Eccellenza Sotir, Archimandrita di Santa Maria Teotokos in ma Grotta chi è? Ferrata. Ma è una super cazzola, a tutto il Sinodo, a tutta la Chiesa. A tutte le chiese, a tutta la comunità cristiana, nella devozione della Vergine Maria. Grotta Ferrata. No, ma scusami, concentriamoci solo sulla parte finale di quelle quattro supercazzole di nomi che ha inventato e che ha detto De Grotta Ferrata. Ma chi è Alessandro I, Sua Beatitudine? Ma ragazzi, ma qui c'è un problema di. È un egotico, ma c'è un problema enorme. Sua ragazzi, Beatitudine però, David II di Prati. Ma che siamo pazzi, ragazzi? Firmato Sua Beatitudine il Patriarca Alessandro I, con Sua Eccellenza Cosma e Parche, Vicario Generale della Chiesa, e Sua Eccellenza Sotir, Archimandrita di Santa Maria Teotocos in Grottaferrata, a tutto il sinodo, a tutta la chiesa, a tutte le chiese, a tutta la comunità cristiana. Ma dai ragazzi, e Crux, Sua Eccellenza Crux De Viale Monterosa De Vibrator, De Vibrator e David Quarto dei quartieri Prati di Roma. Ma dai, ma ragazzi, ma gli date pure credito? Ma questo è il tema vero. Ragazzi, comunque mi sto ricordando qualche giorno fa dell'intervista che abbiamo fatto alla signora Flavia Vento. Pongo una questione molto seria. Si può stare veramente? Io non ci credo fino in fondo. Comunque dobbiamo. Comunque riaprono le librerie martedì, eh? Ma lo so, ma non me ne frega un cazzo delle librerie. Per me dovrebbero chiudere, dovrebbero rimanere chiuse le librerie. Ma la vera domanda è: se riaprono le librerie, non è che uno poi può scorazzare in libreria? Se puoi andare in libreria, puoi andare in libreria. Vedi qual è la follia. Non è che stai lì 4 ore in libreria. Andrebbero barricate. Devi farlo con raziocinio. Ma non puoi dire alla gente di andare con raziocinio quando già si fanno i cazzi loro. È importante che una grande industria culturale riapra. Ragazzi, ma si può stare 4 anni? Si può stare 4 anni senza scopare? No, ve lo pongo seriamente come problema, perché magari qualcuno c'è. L'asessualismo esiste. Le persone che non trombano per 4 anni esistono, anche di più. Ora, 4 anni ha detto, senza fare nulla, senza, tra l'altro, l'avvento è anche un peccato, insomma, è una bella figliola, certo, insomma, no, un po' in là con gli anni, però va bene, c'è una che si mantiene molto bene. Amica mia, e dai, su 4 anni, io non ci credo, 4 anni è meglio contemplare un ulivo piuttosto che trombare. Dai, su, dai. Io chiamerei però a questo punto la signora Donato a Palermo, a Mondello, caro David, per quella del claxon, quella del claxon. Eurodeputata della Lega. Sì, assolutamente, quella del claxon che poi è stata fermata dalla polizia e non è stata multata. Pronto? Sì, Donato? Sì, chi parla? Buonasera, sono Cruciani, come sta? Buonasera, bene, grazie. Disturbo? E Parenzo, cara. Ah, ok, ho capito. Ah, bene. Disturbiamo? No, va bene, facciamo finta di no, dai. Ho saputo che è stata fermata dalla polizia. No, non sono stata fermata perché ero già ferma. Semplicemente la polizia mi è venuta a chiedere perché stavo suonando il clacson. Perché era fuori da casa, diciamo, sostanzialmente. Beh, sì, certo, sì, mi hanno chiesto, in effetti, e quindi ho spiegato tutto. Perché era fuori da casa per fare la spesa, lei, immagino, o per comprare qualcosa in farmacia, questa era l'urgenza che la portava fuori dalla sua dimora. Allora, io intanto sono uscita e sono andata anche in farmacia, ma unitamente a questo ho attuato una protesta in una modalità molto civile e pacifica. Il clacson mi sembra. Suonando il clacson contro la questione del MES, eccetera, eccetera. Io però voglio dire una cosa: va bene tutto, però uno non è che non si può uscire per fare una cosa del genere in questo momento. Tant'è che le hanno detto. Guardi, la polizia mi ha detto che invece l'esercizio dell'attività politica rientra fra una delle attività essenziali necessarie. Sì, perché è un'attività che si svolge nell'interesse pubblico e quindi già solo per questo io ero legittimata a suonare il clacson cioè, come si l'attività fanno... politica è suonare il clacson. Lei non ha mai partecipato a una manifestazione, forse. Tu sei un paladino, tu sei un paladino delle manifestazioni. Ma io da ragazzo moltissimo, quando ero al ginnasio e al liceo, i primi anni di università, moltissimo, certo. Sì, partecipavo alle manifestazioni. Ma quando c'è il coronavirus non faccio pagliacciate in giro per la città suonando il clacson quando c'è una pandemia. Quello che lei reputa pagliacciate a me sembra Bella Ciao, quindi anche Bella Ciao cantata in tutte le salse è una pagliacciata. Per cui lei non festeggerà, però, mi viene da capire che non quello festeggerà. Quello però viene cantato dai balconi, cara. Quello viene cantato dai balconi, non si va in strada a cantare Bella Ciao dai balconi. Non è vero, c'è anche gente che lo canta in strada, la informo. No, però scusi, Donato, c'è un elemento. In questo modo uno dà anche un cattivo esempio. Al di là del merito, non mi interessa adesso il merito del MES, quello MES, non MES, quello che è un discorso lunghissimo. È come autorizzare le persone, se devono protestare contro qualcosa, ad andare in strada, cosa che adesso non si può fare. Io proprio per evitare questo tipo di contestazioni e soprattutto per non fare nulla che potesse essere contro il divieto di assembramento e di vicinanza fisica tra persone in un momento di epidemia, ho scelto la modalità di stare chiusa in macchina. Cioè, dico, la carrozzeria della macchina blocca prendessero la macchina. Sì, d'accordo. Se io oggi prendessi la macchina, però mi scusi cara onorevole della Lega, se io prendessi oggi pomeriggio la macchina, no, domani mattina prendo la macchina e mi metto a strombazzare a favore del MES. Mettiamo, io ad esempio sono a favore dell'accordo, mi mettessi a strombazzare, no? Adesso prendo la mia macchina domattina e stromba, e come no? È un'attività politica, è un'attività politica. Io suono a favore del MES. Posso strombazzare a favore del MES con la mia macchina? No, però lei dice una cosa, che essendo eurodeputato lo può fare, giusto? Ah, e io invece no. Io di solito, quando sono contenta del governo e di quello che sta facendo, non del governo, piazza, dell'Europa, posso suonare il clacson contro i sovranisti domani mattina? Posso? O vengo arrestato? Può suonarlo per quello che vuole. E lei dice: Donato, io sono autorizzato a scendere in piazza, diciamo in questo modo, anche se con la macchina così. Guardi che io non ero sicura di essere autorizzata, io sono scesa anche accettando la possibilità di essere multata. Poi devo dire, la polizia ha fatto una serie di approfondimenti e hanno ritenuto che la mia fosse un'attività legittima, quindi non sono stata multata. Secondo lei lo sarà anche la mia quando io domani suonerò in macchina e dirò viva l'Europa? Sarò multato secondo lei? Guardi, mi autorizzi? Io credo... Se lei mi autorizza, io domani lo faccio. In democrazia, giuro che domani lo faccio. Non sono un ministro, non posso autorizzare. Scusi, lei è un deputato. Faccia la prova. Fai la prova. Se mi dovessero dire qualcosa, posso mandarla a fare in culo? Se mi dovessero poi multare, posso gentilmente fare il suo esempio e mandare a fare in culo poi tutta l'operazione o no? Posso? Gentilmente. Lei può mandare a quel paese, perché non amo essere scurrile, sì, certo. Il poliziotto che il poliziotto se lo ritiene utile. Lei che ha creato il precedente. Io sono un politico a tutti gli effetti, perché sono un eurodeputato. Dunque i politici possono in teoria andare in strada. Possono andare in strada contro il governo, possono andare in strada contro il tradimento degli italiani e del Parlamento. È abbastanza bizzarro che uno possa essere autorizzato a scendere in piazza, anche se col clacson eccetera, a protestare mentre gli italiani stanno dentro casa e non possono fare niente. Io però allora domani scendo in piazza a suonare il clacson, posso? Guardi, se lei ritiene che sia di avere un motivo valido e grave come il mio, cioè il tradimento del Parlamento da parte non credo che i poliziotti festeggio l'Eurogruppo. Non credo che il suo argomento sia interessante. La Costituzione legittimano questo diritto, la libertà di espressione e soprattutto la difesa della patria. Ma non credo che i carabinieri abbiano scritto. Donato, non hanno scritto difesa della patria, però. Onorevole, non penso che i poliziotti abbiano scritto in difesa della patria. Hanno semplicemente valutato che la mia attività non era sproporzionata rispetto alla gravità della cosa. Bene. Ma non credo, ma cosa dice? Ma cosa sta dicendo? Non è più grave di quello che fa Gualtieri. Non penso che i carabinieri abbiano detto, lei è autorizzato. Scusi, sarebbe molto grave il contrario, onorevole Donato. Io spero che lei stia scherzando. Contro Orban posso protestare domani, suonare il clacson contro Orban? Quando dice delle cose così stupide si mette in cattiva luce da solo, Parenzo. E perché lei non protesta contro Orban, amica mia? Io voglio suonare il clacson contro Orban. Ma mi fate suonare il clacson contro Orban domani? Posso? Ma si vesta pure da gallina se vuole, non lo so. Ma non mi vesto da gallina, voglio suonare il clacson contro Orban. Ma no, quello che abbiamo capito da questa conversazione pacata e bella con lei, che è anche simpatica, è che noi possiamo protestare solo contro il governo italiano, corretto? Solo quello si può fare. Okay. Visto che è italiano, magari avrebbe un senso protestare contro il governo. Italiano. Poi, e contro i sovranisti posso protestare contro i sovranisti italiani? No, contro i sovranisti italiani. Vabbè. Posso suonare il clacson contro i sovranisti italiani? Sì, anche contro i vegani può protestare. Ciao Donato. Arrivederci. Grazie. La Zanzara. Colleghi, concludiamo il giro sull'ordine dei lavori. Deputato De Luca, sempre sull'ordine dei lavori, prego. La ringrazio, Presidente, ma semplicemente perché non è possibile tollerare ancora un simile numero e cumulo di bugie che vengono raccontate in quest'Aula. e ricordiamo semplicemente alcuni dati che poi possono essere interpretati da ogni cittadino italiano in piena coscienza e conoscenza. Il trattato è stato negoziato per mesi dal governo giallo-verde di cui era vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Per mesi interi! Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno! Per mesi interi! È stato negoziato da voi! Dal ministro Tria! È stato negoziato! Per mesi interi! Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno è stato negoziato da voi, dal ministro Tria, è stato negoziato per mesi interi. Minchia come picchia De Luca. Eccolo. Io penso che sia una questione di rispetto per gli italiani. Mi sarebbe dovuto dire la verità fin dall'inizio e non 15 giorni alla volta. Si tratta di stare a casa 2-3 mesi. Guardi, faccio l'esempio, la Nuova Zelanda da questo punto di vista è stata chiarissima. 45 giorni tutti a casa, nessuno si muove. Gli abitanti della Nuova Zelanda hanno capito, perché sono persone mature. Ecco, questo secondo me è un modo di trattare gli italiani da ragazzini, ecco, permetta. Che non ci abbiamo soldi per mangiare! Hai capito? Non ci abbiamo i soldi per mangiare qua! Hai capito o no? Non ci abbiamo soldi e tu mi stai facendo i verbali! Questa è l'Italia! Non siete niente! Ci stai finendo di infangare! Non ci abbiamo soldi, tu mi stai facendo i verbali! Questa è, ragazzi, basta! Vogliono vincere loro sempre! C'è un problema che sta uccidendo le persone, mettono a fare altre spese, altri problemi. Guardate, lo Stato guadagna su questo. Lo Stato sta guadagnando su questo. Hai capito? Lo Stato. Ma che cazzo è lo Stato, ragazzi? Ragazzi, la gente sbrocca, la gente sta sbroccando. Io non so come arriveremo al 3 maggio, non so, non è solo questione di testosterone, non è solo questione delle persone che hanno bisogno di sfogarsi sessualmente dentro casa, altro che dicono che le relazioni sessuali sono in alcuni casi sono migliorate, tutte cazzate, secondo me, tutte cazzate. La gente ha bisogno di sfogarsi e parecchio, anche da quel punto di vista. Intanto, spatalino, amico mio, spatalino. Sarà la nuova Caporetto dell'Italia. Traditori! Abbiamo a Roma, come dico da tempo, una banda di incompetenti, dilettanti allo sbaraglio, i compagnucci di sinistra che si lavano la bocca. Ma non vi vergognate di difendere ancora sto governo? Vi ricordate quello che ha detto l'altro giorno? L'altro giorno, non mesi fa, anni fa, Giuseppe Conte: non firmeremo mai per il MES, sì agli Eurobond, ma che figurem e cac che hai fatto? Vergognati! Ci stanno prendendo per il culo! Alla luce di quello che è successo ieri, sto Gualtieri, ministro delle finanze, va in Europa, firma la nostra condanna a morte, perché è una condanna a morte certa, sicura, e poi mente spudoratamente, l'ho sentito stamattina con le mie orecchie, si è permesso di dire, ve lo giuro su Dio, non sto scherzando, non siamo su scherzi a parte, sto parlando di questi incompetenti. Luigi Di Maio, dove sono i grillini all'ascolto? Vergognatevi! Dovevate fare sul MES, eccetera! Ma non vi vergognate! Avete un'oncia di dignità! Se voi l'aveste, non dovreste più uscire di casa! dite all'ex bibitaro Di Maio, attualmente ministro degli esteri, che si deve solo vergognare. Beh, e allora via cosa? Con le vignette. Traditori della patria, fanno bene a dire colpo di stato massonico. Come massonico? Che c'entra massonico? Ma che c'entra massonico? Se ne mettono delle cose in più, perché massonico? Appartengono all'estrema sinistra. Ma chi? Tu, allora io chiamerei però un signore che si chiama Gardin e dice di essere il Doge e voleva andare a fare una riunione vicino Vicenza degli indipendentisti. Doge. Ma scusami, però con calma abbiamo già sentito un deputato della Lega, una deputata della Lega che suona per strada Vittorio Feltri, adesso il Doge, adesso il Doge voleva andare a fare una riunione, una serie di psicotici che hanno chiamato, e adesso pure chiamiamo un altro psicotico. No, ma questo è una cosa seria. Senti. Ah, è seria. Sei pronto? Gardin? Sì. Sì, buonasera, sono Cruciani, come sta? Bene, bene. Cioè, siamo qui bloccati alla stazione con 15 poliziotti e carabinieri. Appunto, no, questo sono venuto a sapere. Ma come mai? Perché avevamo un maggior consiglio oggi a Monteberico. E un maggior consiglio vuol dire un Parlamento convocato per discutere sui provvedimenti dello Stato occupante, dello Stato italiano. Sì. Però non si può uscire in teoria, no? Non si può circolare, nemmeno per questo. Allora, i parlamentari secondo te escono? Tu ad esempio sei giornalista, esci? Sì, io sì, perché vado a fare un lavoro. Se lei andasse a lavorare probabilmente... Anzi, noi facciamo un lavoro gratis, lo recuperiamo per la Repubblica Veneta. Sì, no, ho capito. Tu puoi anche lavorare per la Repubblica Veneta, però non è un lavoro vero e proprio. Cioè tu vai a fare una riunione di partito. Ma lo dici tu? No, questo, lo dico io. Come i parlamentari che non fanno un lavoro. Fanno un lavoro, cioè fanno un servizio essenziale, come si dice. Ma non è riconosciuta però la Repubblica Veneta. Ma chi se ne frega, logico, neanche noi siamo riconosciuti, siamo occupati da 200 anni. Ma che dicono i poliziotti in questo momento? Cosa stanno dicendo? I poliziotti mi hanno fermato e mi hanno anche ammesso che ero qui per bloccarmi. Ah, addirittura? Per impedirmi di andare alla riunione del Maggior Consiglio a Monteberico, che è... Cioè, praticamente vi stanno impedendo... Mi hanno già impedito, perché ormai la riunione l'abbiamo anche... Quante persone? Dovevamo essere una 25, tanti non hanno potuto venire, però... Però, amico mio, però 25 persone, tutte in un posto, in questo momento, non è consigliabile. Io te lo dico, va bene la Repubblica? Noi, come avevamo scritto a quest'ora... avremmo tenuto le debite distanze. Però però scusami Albert, per carità, va bene tutto, uno si può riunire a fare qualsiasi cosa e la Repubblica Veneta adesso non è qui il caso di discutere. Tu non riconosci lo Stato italiano poi in fondo, no? Questo è, diciamo, è uno Stato occupante, per forza lo riconosco. I poliziotti, sai, riconosci i carabinieri? I carabinieri secondo te che cosa sono? I carabinieri, quelli che stanno intorno a te adesso, che cosa sono? Gli sgherri di un paese occupante, cosa sono? Sì, lo sono, di un paese occupante, ovviamente. Non è che io mi ingiuri per questo. No, però fanno una funzione servile di uno Stato che per noi è occupante. Pretendiamo dallo Stato anche un rispetto. Io ho scritto a Mattarella e a Conte l'altro giorno dicendo che loro devono assicurarsi che le riunioni del Maggior Consiglio vengono rispettate. Mattarella immagino che non abbia risposto, caro. Ma caro, non interessa che abbia risposto, no. Però scusami, Gardina, perché però non ha neanche vietato la manifestazione. Ma non è che è vietato, è che in realtà non si può uscire da casa se non per motivi. Ma chi lo ha detto? Tu ti sei fatto convincere di questo? Ma perché per te è una farsa il coronavirus? Non ho capito, tutta una farsa messa in piedi dallo Stato occupante? Beh, abbastanza. Cioè, abbastanza. Per te è una cosa per imporre una specie di stato di polizia, immagino, nella tua testa, immagino. No, stiamo andando verso questo. Stiamo in un governo traballante che ha messo tutti a casa, dice di volerli mantenere per farsi riconoscere questa funzione di salvatore del paese. Dietro i provvedimenti c'è un disegno politico di forzare l'economia per creare una situazione per noi disastrosa, ma per loro... Cioè, ma di chi è il disegno? Chi è che ha progettato queste robe qua? Chi è che sta progettando questa grande operazione? È una cosa complessa, la vita non può essere soffocata. È veramente assurdo. E dunque ne stanno approfittando per imporre, eccetera. Vabbè. Beh, non è solo questo, ne stanno approfittando, ma dopo invece, vista la nostra... la nostra determinazione a fare questa riunione sì, per ma... loro è tra virgolette sovversiva, no? Ma non è che è sovversiva, è che uno in questo momento scusi Doge, lei è anche Doge, no? Ma che vuol dire Doge? Ma chi è Doge? Ma fermi tutti, cosa cretino, vuol dire? Chi è questo cretino che si intromette? È Parenzo, è Parenzo del Veneto. Che si intromette? Cosa vuol dire? Ma chi sei Ostomona che parla? Chi sei Ostomona? Chi sei Ostomona che parla? Chi sei Ostomona? Doge! Calma. Doge, ascoltami un attimo. Ma non fa parlare quel tipo di imbecille. Ma ti si Doge veramente? Così è un Doge? 71esimo. Chi è che sta parlando? È Parenzo, è Veneto tra l'altro. È Parenzo, ma ti sei un Doge? Mi so Veneto, ma sa. Ma lui è un cretino, non deve neanche parlare. Ma ti non sei un Doge o un Mona? Un Doge o un Mona? Per me no, ti sei un Mona, tu. No un Doge. È no un Doge. Anche, è patentato anche cretino. Ma tu imbecille. Ti sei autoproclamato Doge? Come sei diventato Doge? Ma stai zitto, cretino. Ma posso capire come sei stato Doge o no? Stai zitto, cretino. È una domanda. Ma come sei Doge? Stai zitto. Scusami, Doge. Parlo col tuo collega, non allora, con te. Allora, Gardin, scusami un attimo. Sai è vero, aspetta, è vero che c'è scritto sui tuoi post, sulle tue comunicazioni, c'è scritto... 121esimo Doge. E quando sei stato eletto 121esimo Doge, scusami? Il 22 ottobre del 2016. 22 ottobre del 2016. In una seconda elezione. Il primo ma è Doge, seconda edizione da chi? Ma perché non glielo chiedi Cruciani almeno? Ma chi è questo cretino? Ma ho capito, ma Cruciani, poi chiedegli. Porca miseria, Cruciani, puoi chiedere a questa sottospecie di persona chi cazzo lo ha eletto Doge? Glielo puoi chiedere tu per parla? Piacere, chiediglielo tu, anziché lisciare il pelo a tutti questi qui, chiediglielo per piacere. Io ho rispetto della libertà. O parlo con te civilmente. Gardine, oppure... poi non ho capito dove sono i poliziotti ma in questo momento però. Chi lo ha proclamato Doge però? Ma chiediglielo stare, tu. Qui, lascialo stare. Vabbè, qualcuno l'avrà proclamato Doge, un gruppo di persone l'avrà proclamato Doge, non lo so. Ma io posso diventare Doge anch'io? Mi puoi proclamare Doge della Zanzara? Sei troppo cretino. No, io voglio fare il Doge della Zanzara. Nessuno mi puoi nominare Cruciani, mi puoi nominare Doge della Zanzara, cazzo. Posso fare il Doge o no? I poliziotti, quando gli dici che sei il Doge, che dicono? Questo è importante, i carabinieri. Beh, rispettano. Certo. Chiamano l'ambulanza, chiamano i medici, dai. No, tu che l'ambulanza la chiamano per te, cretino. Ma imbecile, ragazzi, dai, per piacere. Se io tornassi a casa stasera e dicessi sono un Doge, mia moglie mi sbatterebbe fuori di casa, hai capito o no? Senti, io non parlo con lui, se vuoi... No, Cruciani, diglielo tu però. Cruciani, scusami, perché mi sembra di essere matto... No, Cruciani, voglio dire una cosa sulla Cruciani e poi io me ne vado. Non fare quello che mi sembra di essere... Oh, Cruciani, se tu tornassi a casa stasera... Va bene, adesso me ne vado, Voglio solo chiedere a Cruciani una cosa. Cruciani, se tu stasera tornassi a casa da tua moglie e dicessi... Ma io non voglio essere Doge però, ma non voglio essere Doge io. Cosa ti direbbe secondo te? Cosa ti direbbe? Ma non lo so, ma mi prenderebbe per matto, però io non sono Doge, non abito in Veneto. Non voglio essere Doge, che ti devo dire? Sei circondato dalla polizia, dai carabinieri? Certo, ce ne sono 20 qua dentro. 20. Vabbè, 20. Che ti devo fare? Uno può far perdere tempo, però. Puoi fare perdere tempo alla polizia e ai carabinieri oggi, amico mio. Questi hanno da fare, devono controllare la gente che esce da casa e che sgarra le regole. Cioè che... Vabbè, questa è una tua opinione. Anche i parlamentari fanno perdere tempo agli altri. Vabbè, ciao Gardin, ciao, abbraccio. Ciao. La Zanzara. Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che c'è un ritorno, abbiate pazienza, un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte. Buongiorno a tutti, se appena, scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese. Ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani. che esci domani. Più veloce domani, più veloce domani, tutti insieme ce la faremo. Siete collegati con il canale 897 sul decoder satellitare di Sky. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Lunedì c'è l'hashtag Io rusto a casa. Hashtag giusto balcone. Io rusto a casa. Del balcone. Cosa deve fare l'istigazione? Quindi balconi e terrazzi vi autorizzo io con rustature. Quindi l'hashtag è da Io resto a casa. Io rusto a casa. Forza, lanciatelo. Lunedì di Pasqua. Io rusto a casa. E così siamo tutti d'accordo. Take a little of the tears, the fears and the lies. Take a swing at the crowd, take a swing at the girls and the guys. Don't go with the flow. Allora ragazzi, Parenzo, ti invito da Topastro, così sei stato definito, al silenzio, perché siamo in un momento fondamentale della trasmissione pre-pasquale, ultima trasmissione della settimana, saremo in onda naturalmente. Vi censurate. No, non ti sto censurando, però c'è una persona che non gradisce i tuoi interventi. Poi alla fine avrai modo di dire. Non gradisco tante cose, però accetto il silenzio. Il divino Telma è con noi. Buonasera divino. Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova. Stiamo in questo momento rispondendo ad una valente giornalista di Libero. Sì. Alessandra Menzani, come sappiamo, molto intelligenti, le sue domande appariranno probabilmente, dipende da quanto tempo ci impieghiamo per rispondere. O domenico, lunedì, insomma. Benissimo, no? Grande annuncio. Questo qua è intervista a Libero, cioè, quotidiano libero, diretto da Vittorio Feltri, che tu ammiri naturalmente, immagino, divino, no? Sì. Feltri è una persona speciale, noi abbiamo sempre avuto per lui, perfetto, come per un ristretto, molto ristretto nucleo di soggetti. Bacio della morte. Anche Belpietro, per esempio, molto simpatico. Abbiamo avuto sempre molta ammirazione. Ma anche d'altra Borgo parte Novo. Questo è spiegabile, perché noi siamo sempre stati anche da sempre ammiratori di Indro Montanelli. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Allora, caro divino, io inizierei subito per dare un senso alla sua presenza qui stasera con una domanda che è un po' la domanda principale che si stanno facendo tutti gli italiani: quando inizierà la fase 2, cioè perché quando inizierà la fase in cui saremo un po' più liberi, diciamo. Lei ha un'idea? Ha un'idea anche dopo aver sentito le parole di Conte? Ci può dire qualcosa in più? Mi sembra che le sue previsioni si siano tutte avverate fino adesso, no? Ma che tutte? Ma in effetti le parole con le quali Gattamolta assedia il popolo italiano solitamente in tarda ora per creare Conte. Un effetto speciale, pensiamo, sono le parole che noi avevamo pronunciato e i pensieri che noi avevamo formulato almeno 2 mesi fa, perché già all'inizio di febbraio noi avevamo detto ciò. E vi sono numerose testimonianze, per esempio il 23 febbraio. Sì, lei che cosa aveva detto? A Radio Rai 2, in diretta da Viareggio, quando c'era il carnevale, rispondendo alle domande di un presentatore che potremmo definire simplicio alla luce del suo intelletto. Vabbè, insomma. Lui aveva chiesto, divino, cosa accadrà. Sì, e lei? E noi abbiamo risposto. Il peggio deve ancora venire. Infatti ha portato una naturalmente lira, siamo stati insomma, accolti dallo studio collegato, non sappiamo se a Milano o a Roma, da qualche ridolino, perché la stoltezza abbonda sempre in quegli ambienti, ma poi i fatti ci hanno dato ragione. Cioè tu stai dicendo, scusami Divino, che tu praticamente questa situazione di lockdown l'avevi già prevista prima, questo è il punto. Ma naturalmente, ed è ampiamente verificabile, basta andare nei nostri social, Instagram, Facebook. Quando torneremo alla normalità? Quando torneremo alla normalità, Divino? Questa è la domanda che si aspettano tutti. Pendiamo dalle sue labbra. Premesso che abbiamo sempre detto che appunto non sarebbe stata una corsa sui 200 metri, ma quantomeno una lunga, faticosa, estenuante maratona, noi abbiamo anche ad una radio che è anche quella nel nostro sito, visibile e leggibile, abbiamo predetto che naturalmente si scavalla tutto aprile, questo è ovvio. L'abbiamo detto in tutte le salse, ma si scavallerà necessariamente anche maggio, perché in verità il picco che taluno dice essere stato raggiunto, noi riteniamo, ancorché lo fosse, comunque sarebbe un picco molto elevato e che necessariamente per ritrarsi, per passare dalla nabasi alla catabasi dovrebbe avere a disposizione non poco tempo, quindi in sostanza cioè staremo dentro anche a maggio, Divino, scusi, ma senza dubbio. Ma no, e comunque noi pensiamo che se qualcuno pensa davvero di andare sulle spiagge tra ombrelloni, sdraio e magari asciugamani sparsi per la spiaggia, beh, forse è il caso di essere più prudente e non comprare i costumi da bagno per la nuova stagione, casomai userete quelli vecchi, perché a noi sembra piuttosto ardito pensare che si possa fare ciò. Benissimo. Qualora si desse il via libera, tutti, sarebbe inevitabilmente una corsa verso l'abisso. Verso l'abisso, benissimo. Dunque lei è addirittura proiettato già verso giugno. Scusi, io però volevo chiederle in conclusione una cosa. La questione della multa, abbiamo visto tutti, sono circolate sui social, lei è una persona molto conosciuta, come dire, in questa società, in questo mondo naturalmente, in questo mondo terreno. E abbiamo visto tutti le immagini della multa che lei, nella multa, in realtà del controllo che le hanno fatto le forze dell'ordine. Mi sembra di capire, Parenzo è in ascolto naturalmente, no? Le multe nei confronti è stata comminata una multa o no? Io dico sempre multa, ma in realtà non si sa. Ci può rivelare questo, Divino? Sì, ci è stato riferito da fonti affidabili che in effetti molte persone in rete hanno parlato di questa multa e anche si sono taluni compiaciuti. Ma c'è stata o no? Lunedì quando noi siamo stati intercettati da una pattuglia di 5-6 valenti agenti della polizia municipale di Genova, uno di quelli ci ha avvicinato, noi non ricordiamo il volto perché aveva una maschera sul viso, maschera protettiva naturalmente, non lui. Comunque è una persona molto gentile, molto cordiale, ha fatto un verbale, alla fine ci ha detto che a lui risultava tutto in perfetto ordine, che ogni regolamento era stato rispettato. Ma lei che cosa faceva in giro, scusi Divino? Noi eravamo per le vie, in quel caso i vicoli, ma eravamo già giunti ad una nota piazza storica. Ma cosa faceva in giro? Stai a casa. Ad una funzione che è strettamente prevista. E cioè cosa? E cioè cosa? Si tratta ma di paga la multa, non rompere i coglioni. Non è che i cittadini devono spiegare. Beh, però scusi, lei non può uscire così, Divino. Cioè, non può. Naturalmente. Era implicito in quello che abbiamo appena detto, avevamo con noi naturalmente l'autocertificazione. Benissimo, dunque lei non è, alla fine la notizia è questa, lei non è stato multato, mi sembra di capire, giusto? No, noi non abbiamo ricevuto alcuna multa, la persona è stata molto gentile, molto comprensiva, aveva anche una bella voce noi nel congedarci lo abbiamo benedetto. Addirittura, che vuol dire? Perché l'ha benedetto? Scusi, l'abbiamo benedetto perché assolveva, come del resto i suoi colleghi, sì, ad una importante funzione. Ah, ho capito. Ma di certo, fa il vigile, certo, questo popolo, a differenza che sua, che fa il pagliaccio, certo. Ha paura, è avvizzito, è stanco, si vede tutte le sere apparire, sì, Gatta Molta, il che naturalmente porta l'umore ai livelli ancora più bassi. Va bene. Forse apparisse la Cipriani sarebbe meglio. Addirittura, apparisse la Cipriani a posto di Conte. Allora, Parenzo, che ne pensi di quello che ha detto il Divino? Scusami, in conclusione. Una valanga di stronzate, alcune cose già previste da, ampiamente, la questione di aprile, sì, la stronzata della galattica, quello, che ha detto quello, Conte quello poco fa, e la paga la multa. Fammi sentire il Divino. Paga la multa. È un grumo di guano viscido, topastro. Perché lei disprezza Non devi girare per le strade, stattene a casa e non rompere i coglioni. Non devi girare per le strade e basta con noi. Noi un cazzo, sei uno da solo, sei uno e unico. Ricolmo di ogni sozzura, tutto ciò naturalmente è ben lontano dal nostro aire ubertoso. Perché lei diciamo pertanto gli ascoltatori della Zanzara. Facciamo nulla, facciamo le corna, perché porti una nera rara, una nera rara porti. Con testa benedizione. Sì. Arrivederci, Divino, arrivederci. A voi, siate lieti, figli di Renzo. Mamma mia. Cosa pazzesca, dai. Siate lieti, ma è una roba Giovanni da Treviso, vai, Giovanni da Treviso. Perché lo intervisti seriamente? Poi? Questo è il tema. Dimmi. No, la sua è l'opinione del Divino, dai. Dimmi. Allora, senti, a proposito dell'avvento, no? A proposito della cara Flavia Vento, l'amica Vento, sì, dimmi. Ecco, io ti dico che l'astinenza sessuale è qualcosa che ti dà un'energia spaventosa. Cioè, scusa, per quanto tempo? Siccome prima, mi ha scritto, uno prima, no? È inutile che fai così ironia su questa cosa qua. Ma io sono esattamente 6 anni, 4 mesi, eccetera, che non trombo. Però, amico mio, adesso. Ma guarda, io ti posso dire che in rete trovi tantissimo materiale. Sì, lo so, l'attività l'abbiamo trattato sessuale, a lungo questo argomento. Però è un dispendio di energia enorme, ma non ti parlo di energia fisica, ti parlo di energia mentale, spirituale, energia. Sì, ho capito, ma tu per quanto tempo hai lasciato passare tra una trombata e l'altra? Cioè, quanto tempo? Io anche due mesi. Due mesi che cazzo è? Ma che stai a dire? Ti ho parlato di anni, ti ho parlato e tu mi parli di mesi. Ecco, io adesso non conosco la tua vita sessuale, però se tu la provi, credimi, tu se non hai un orgasmo per 4-6 settimane, ma guarda, hai un'energia, una concentrazione. Ma 4-6 settimane, ragazzi, è impossibile. Cioè, è impossibile, ma, ma guarda, io ti garantisco. Ma tu stai parlando comunque di tempi normali, Giovanni. Ma posso capire posso capire quello che dici tu. 4 settimane, 5, 6, quello che è, un mese si può anche fare, per carità, assolutamente. Ti può dare anche un'energia mentale, non c'è dubbio. Però, amico mio, qui stiamo parlando di altre cose. 4 anni Flavia Vento ha detto a noi l'altro giorno. 4 fottutissimi anni. Ti garantisco 4 anni. Un altro mi ha detto adesso 6 anni. 6 anni, dai, su. Ma di che stiamo parlando? Dai. Io 6 anni non ci sono mai arrivato. Qui abbiamo Pietro Longo, puttaniere per eccellenza, uno dei personaggi più amati dal nostro pubblico, grande frequentatore di bordelli, che sta impazzendo, giusto Pietro? Come stai? Ah, buongiorno innanzitutto, buonasera. Come stai? Saluta Parenzo un attimo, che non è nelle tue, buonasera, come dire, di solito non sei nelle sue grazie, non sei nelle sue grazie. No, non sono nelle sue grazie. Buonasera, buonasera. Potrei parlare con lui volendo tranquillamente di... Come stai vivendo? Scusami Pietro, come stai vivendo innanzitutto? Con dramma, con un grande dramma, diciamo la verità. È un dramma. Tu sei abituato a frequentare tutti i bordelli d'Europa, praticamente sei un veterano. Sono un veterano, sono abituato a frequentarlo con una certa frequenza e quindi sai... Cioè quanto tempo hai lasciato passare tra una trombata e l'altra con una puttana tu? Guarda, diciamo che la verità, da 23 anni, proprio quando le cose erano molto molto lontane, 3 settimane, ma proprio... Sì, proprio il massimo del tempo, cioè... Il massimo del tempo. E a casa seghe su seghe. A manetta, internet come se non ci fosse un domani. capito? Comunque, tu l'hai conosciuto anche di persona, caro Parenzo. No, no, no, l'ho visto, una persona raccapricciante, quindi va bene. Prego, prego, caro. Sì. No, ma è anche una persona molto simpatica, però voglio dire, se devo dare un tu dici raccapricciante da sotto tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista. Ma dal punto di vista morale, etico, dal punto di vista anche. Scusami, Pietro, non lo so perché l'ho visto, ma non esprimo giudizi. Voglio capire una cosa: come fai in questo momento? Per te è un dramma assoluto, anche le previsioni non sono a breve termine per i bordelli, questo ma bisogna, diciamolo, guarda, chiaramente. Certo, è un dramma assoluto, innanzitutto si tiene resistere, prima cosa, per resistere si utilizza internet, si fanno lunghe telefonate con gli amici, con gli altri amici puttanieri, ci si tiene in contatto con le chat. Cioè avete un giro di puttaniere in cui vi scambiate anche foto, immagini. È ovvio, facciamo passare la giornata ricordando quello che era e programmando il futuro, ovviamente. Cioè, ricordando quello che era, perché sembrano tempi lontanissimi quelli nei quali tu frequentavi il Welcome e altri bordelli ancora. Devi sapere, Parenzo, te l'ho già detto, l'ho spiegato più volte, Pietro Longo è un veterano, cioè bordelli in Europa dell'Est, è sostanzialmente uno ormai abituato a una vita così, cioè solo bordelli e nessun fidanzamento, solo puttane, solo prostitute, diciamo la verità. Solo, sì. Ma non hai provato a fare qualche sortita, no, in questo periodo, no? No, rischiare 3.000 euro per cosa, no. A parte che poi io cosa sono fa? Se ne sta a casa da solo? Nelle province dell'impero, del nord-est, non è che sono a Milano, dove ci sono anche delle loft, come dire, interessanti, delle ragazze da portarmi più interessati. Qua nelle province dell'impero, distanti dell'est, del nord-est, sì, non c'è nulla. Ogni tanto mi desta, avevo quasi trovato una possibilità, quando finirà tutto, di venire via Milano, perché ho trovato una meraviglia della natura. Chi hai trovato a Milano? Era stato a Milano sui social, c'è una meraviglia della natura di 19 anni. Pensa come 19 anni. Che vergogna! Parla di una ragazzina, potrebbe essere sua figlia, probabilmente. Ma ho capito, ma 19 anni potrebbe essere tua figlia, potrebbe essere. No, mia figlia, sua figlia. No. Ma figura. Ma scusa, è maggiorenne, cosa vuole? E Pietro Longo ama queste cose qua, ama le teen, come dire, no? da sempre. Finché comunque, manda un messaggio prima di Pasqua, Pietro, mandiamo un messaggio prima di Pasqua. Resistere, conservare i soldi in vista del sol dell'avvenire, per il sol dell'avvenire. Resistere, conservare i soldi, tenere alto lo spirito e cercare di non diventare matti. Ciao Pietro. Dai, italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà di espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Siete collegati con il canale 897 sul decoder satellitare di Sky.